Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Roderick Stewart, nato a Londra il 10 gennaio 1945, al secolo Rod Stewart, caratterizzato dalla sua graffiante voce, è uno degli artisti di maggiore successo di tutti i tempi, avendo venduto oltre 200 milioni di dischi in tutto il mondo. In America, grazie al concerto gratuito del 31 dicembre 1994, davanti a oltre 4 milioni di spettatori sulla spiaggia di Copacabana, Stewart è entrato nel Guinness dei primati, diventando l'artista con maggiore pubblico a un proprio concerto dell'intera storia del rock. Auguri, caro Rod, da tutti noi di Voice Anatomy. Tant'anni, la più bella vociaccia della storia della musica rock pop internazionale. Bene, sembrava giusto cominciare questa nuova puntata di Voice Anatomy, qui in diretta da Radio 24, da una bellissima vociaccia, una bella voce che mi accompagnerà per questi primi 40 minuti di trasmissione. Al mio fianco ve lo presento con una breve biografia, anche se la biografia è così lunga che dovrebbe durare veramente l'intera trasmissione, non perché sia una persona anziana, anche se è già in pensione da tanti anni, ma nonostante sia molto giovane. Eh sì, devi soltanto ridere adesso. Lui è nato a Roma il 5 febbraio del 1951, è un attore, è un doppiatore, è un dialoghista, è un direttore di doppiaggio italiano. Comincia a recitare fin da adolescente, poi ci faremo raccontare bene da lui a che età e con quali nomi incredibili. E poi le prime apparizioni televisive, dove comincia veramente a intraprendere una strada di gran successo vicino al grande Raimondo Vianello nel varietà televisivo Tante Scuse, Di Nuovo Tante Stuse, Noi No, eccetera, eccetera, eccetera. Poi è stata la voce di, ed è tuttora una delle voci più importanti del doppiaggio italiano. Non voglio leggere quello che ha fatto perché è veramente tanto, ve lo faccio scoprire subito, e non voglio dire nient'altro. È anche un comico, perché sue sono state le apparizioni importanti in trasmissioni della Rai come Convention, dove ha avuto l'intuito all'inizio di imitare un suo idolo, visto che lui è anche frequentante e praticante romanista, di Totti, del capitano della Roma. Lui al mio fianco, gli ho dato anche un foglietto prima che entrasse, l'abbiamo trovato. E allora, prima di dire nome e cognome, vi faccio sentire questo piccolo monologo tratto da un film storico che lui ha doppiato, ovviamente tantissimi anni fa, e poi vediamo se lo riconoscete. Dopo ovviamente vi racconterò chi è e che film era. Ti prego non ucciderci, ti prego non ucciderci. Lo sai che ti amo, baby, non ti volevo lasciare, non è stata colpa mia. Non ti ho tradito, dico sul serio, ero rimasto senza benzina. Avevo una gomma a terra, non avevo i soldi per prendere il taxi. La tintoria non mi aveva portato il tight. C'era il funerale di mia madre, era crollata la casa. C'è stato un terremoto, una tremenda inondazione. Le cavallette, non è stata colpa mia, lo giuro su Dio. Signore e signori, Massimo Giuliani, grande e indimenticata voce di John Belushi, e quella era Blues Brothers nella bellissima scena nei sottofondi di questa città, dove l'unica scena, io lo dico sempre, l'unica, buongiorno a tutti, tanto per cominciare, no, l'unica scena del film in cui uno fra lui e Dan Aykroyd si leva per 30 secondi gli occhiali. Loro hanno fatto un intero film per chi fa cinema sa che il cinema è fatto di occhi, sì, basta, di sguardi. Loro sono riusciti a fare un film straordinario non usando gli occhi. È vero, pazzesco. Si toglie lì, c'è tutto il contorno bianco. Beh, ti ho fatto esordire alle 2:30 del pomeriggio, anzi esattamente alle 2:34 e 44 secondi con uno, ma è identica la voce ancora. No, ti posso garantire che dall'altra parte del vetro, dove ci sono i nostri autori, c'è Alessia Navarro, c'è Damiano, di tutti i cognomi del mondo, ne ha 12 di cognomi. C'è il nostro amico Valerio, visto che la Roma ha giocato ieri, lui è presente come tecnico. C'è la nostra Gaia lì pronta a tutto e alcuni amici che ci vengono a trovare la domenica per farci compagnia. E questo era bellissimo, cominciare così ti distruggi subito. Però io la racconto sempre, perché poi uno tende sempre a raccontare le cose positive che ti riguardano. Io dico sempre che quel film è stata la più grande toppa di valutazione della mia vita, nel senso che prima di doppiarlo io e Piero Tiberi, che doppiava De Necroide, un bacio a Piero, che poverino da qualche anno non c'è, straordinario attore e grande amico, e Sergio Feliciati, che era il direttore della distribuzione, ci fece vedere il film, allora ancora si faceva di farci vedere il film prima di doppiarlo, e alla fine della proiezione venne da me e mi disse: Massimo, che pensi? E io gli ho detto: guarda Sergio, secondo me il film è geniale, questi sono due fenomeni, il film è straordinario, troppo intelligente, secondo me non fa una lira, gli ho detto. C'è visto lunghissimo con Ray Shatter, secondo me non fa una lira, gli ho detto. Bisogna riconoscere le proprie toppe, e come vede un calciatore questo segnerà mai 38 come si chiama? Gol. Van Basten. Massimo ovviamente non ha mai abbandonato, è uno baluardo storico del doppiaggio italiano da tantissimi anni, è la voce giovane per eccellenza ed è così, è rimasta, nonostante io ho letto che sia del 1951, insomma, mamma mia. Sì, perdonami, io delle donne non lo dico, l'età, ma insomma di noi maschietti. Maschietti è una parola grossa, comunque sì, vabbè, dai, teniamocela buona. In questi ultimi anni Massimo ha avuto la bravura di dirigere i film più importanti. Noi, uno degli ultimi, a parte l'ultimo, che ho avuto anche il piacere di condividere, è stato il film che l'altro anno ha vinto quasi tutti gli Oscar più importanti, il film Birdman di Iñárritu. Credo che sia Iñárritu, però credo che noi avremo modo di saperlo. Perché io chiedo adesso a voi, che siete molto attenti, il numero nostro per intervenire ovviamente in diretta è 800, cioè 800 24 00 24, o per gli sms... Lo sapete, 349-238-6666. Iñárritu. Vabbè, aiutate. Iñárritu, ignari noi. Però... siamo ignari. Ignari che non sappiamo come si pronuncia. Dateci una mano. E allora abbiamo un piccolo contributo del grandissimo film che vi consiglio, è Birdman, per chi se l'è lasciato sfuggire, ascoltiamone alcune battute, diretto magistralmente da Massimo, il quale ha vinto anche miglior film, miglior doppiaggio dell'anno. Grazie. Prego. Come siamo finiti qui? Questo posto puzza di palle sudate. Avevamo tutto. Eri una star di Hollywood, ricordi? Se non le spiace, non ha paura che il pubblico pensi che lei si è dato al teatro per scrollarsi di dosso l'immagine di un supereroe al tramonto? Assolutamente no. È per questo che 20 anni fa ho rifiutato di girare Birdman 4. E quindi non ho paura del Birdman pubblico. Birdman 4! Grazie mille a tutti! 4! Adesso ammettilo. Tu stai facendo questo perché hai una paura dannata, come tutti quanti noi, di non contare niente. E ora stai per distruggere ciò che resta della tua carriera. Avremmo dovuto fare quel reality show che ci avevano offerto. Lo sai che ho ragione. Tengo un dito nel culo! Ehi, come va? Perché non ti riposi un po'? Non lo capisci? Tu sei l'originale, amico. Torneremo sulla scena. Che grande film. Pensa, bellissimo. Io quando l'ho visto in originale... prima hai di detto cominciare... sto film? No, non vincerà no, mai invece niente. No, ho detto, secondo me è uno dei film più belli che ho visto io negli ultimi 20 anni. Mi aveva proprio mi ha rapito anche a me. L'anima, il cuore, l'ho trovato straordinario, ma non soltanto dal punto di vista dell'idea geniale, che probabilmente chi lavora nel mondo dello spettacolo avrà gustato ancora di più perché conosce certi effetti retroscena classici della mentalità di un attore. Il film è girato in un modo mostruoso, questa finta panoramica infinita dall'inizio al fine, questo piano sequenza infinito. Teoricamente sì, io riguardandolo 800 volte, perché facendo l'adattamento e tutto mi sono andato a studiare, qualche punto si può intuire dov'è il taglio. In alcuni casi non si capisce, no. Cioè lui è stato straordinario. Avranno fatto delle prove teatrali del film infinite. E poi la capacità di lavorare con gli attori. Io Michael Keaton così bravo non l'avevo mai visto. Mai, uno più bravo dell'altro, cioè veramente grande, veramente meritava il miglior film, perché grande lavoro. Normalmente si cominciano le interviste o questo studio attraverso il mondo della voce dall'inizio delle carriere di ognuno, e qui abbiamo cominciato non dalla fine, ma insomma dall'oggi, perché stiamo parlando di... quest'anno, lo dico drammaticamente. Sì, ormai dall'inizio che c'è. Io quest'anno ho compiuto 60 anni di lavoro. Sì, perché ecco, questo mi interessa molto, e infatti cominciamo anche questo percorso. Infatti mi vedi abbastanza provato, segnato tanto non dal tempo e dalla vita. No. Tu hai iniziato la carriera da attore, come dicevo all'inizio, da adolescente. Da bambino. Se andate avanti, ma da bambino hai cominciato con i grandi drammi sceneggiati televisivi. Allora se ne facevano tantissimi. Quanti anni avevi e qual è stata la prima? Guarda, io ho cominciato in un modo abbastanza casuale, buffo, a 4 anni e mezzo, nel senso che mia sorella studiava danza classica all'Accademia, quella all'Aventino, diretta da quella coreografa straordinaria, si chiamava Chiaruskaya. Beh, chi non... chi non ha mai ballato con Chiaruskaya. Franco Rossi, il regista che stava per fare un film bellissimo, tra l'altro. Il regista dell'Odissea, se non sbaglio. Sì, poi il regista dell'Odissea. Si chiamava Amici per la pelle, un film sulla adolescenza, sulle difficoltà giovanili e così via. Molto bello, un film drammatico. Andava cercando bambini e bambine che gli servivano. Andò a dare un'occhiata all'Accademia, scelse un gruppo di una ventina di bambini per fargli un provino alla Titanus, fra cui mia sorella. Mia madre accompagnò mia sorella, si portò me appresso, mentre mia sorella faceva questo provino che non sortì nulla. Lei infatti ha continuato poi a ballare e a fare poi la coreografa in seguito. Io mentre stavo là mi aggiravo, bambino di 4 anni, in mezzo a questi studi, molto curioso, ho beccato un trovarobato con un addetto molto simpatico che mi ha visto davanti a un fucile finto e mi ha lasciato giocare, certo. Ovviamente. Quando dovevamo andare via, il bambino dice: un fucile mio me lo porto via. E allora mi hanno detto: no, guarda bambino, non si può fare, non è così. Sono scoppiato ovviamente a piangere, un pianto dirotto. È passato, pensa, in quel momento con la macchina Luigi Zampa, il regista, e mi ha detto: bambino, tranquillo, te ne mando a casa uno io stasera. Io mi sono placato, e invece la sera arrivò a casa mia l'autista della Titanus con un fucile che mia madre ha conservato gelosamente ovviamente per tutta la vita, e con un fotografo, perché stava per partire il primo film di Nanni Loi, regista. Gli serviva un bambino piccolo che doveva fare la parte del figlio del protagonista, ma un ruolo drammatico, non riuscirono a trovarlo, e Zampi ha detto: guardate, ho visto un bambino e potrebbe andare bene. Mi hanno fatto delle foto e feci così il primo film di Nanni Loi, che si chiamava Suprema Confessione. Poi ho fatto un film con Zampa, perché si ricordava di me, poi è venuto Marcellino Pane e Vino in teatro e in televisione, e poi da lì è partito Marcellino Pane e Vino. Marcellino Pane e Vino, mamma mia. Che cosa mi stai dicendo? Che sai, i nostri ascoltatori. E il doppiaggio nasce da quello, perché uno dei frati, che era Loris Gizzi, era un socio della CDC, che all'epoca era la storia, l'unica società di doppiaggio. E siccome, come sai, servono sempre i bambini come gli anziani nel doppiaggio, mi disse: perché non vieni e ti faccio sentire? E andai a fare un provino con un signore molto simpatico che si chiamava Savini, che era un direttore di doppiaggio buffissimo, completamente calvo, molto corpulento, con due enormi cespugli al posto delle sopracciglia, parlava bolognese, diceva: non ci sono più scarpe bianche, io perché tengo bene le mie, ma non si trovano più le scarpe bianche d'estate. E stava ogni volta a parlarmi delle sue scarpe bianche. Tu quanti anni avevi, Massimo? Ce n'avevo 7 all'epoca. No, feci questo provino, al quale era presente Carlo Romano, perché era un film con Jerry Lewis. Carletto Romano, che iniziava dopo poco un film con i bambini, e mi chiamò subito e cominciai così a fare anche doppiaggio. Questo è stato un effetto domino pazzesco, sì, pazzesco da lì in poi. Molto divertente. Che ti ha portato fino ad oggi a festeggiare i 60 anni. Che mi ha portato... Per cui sei in pensione da tanto tempo. Dal 90. Sono 25 anni che sei hai cominciato veramente il lavoro minorile, non nero però. Ma non sai nero. Perché? No, infatti era pensione, perché era tutto versato. Esatto. Sai, questo è un lavoro, l'abbiamo sempre detto, nel quale necessitano i bambini e necessitano quelli di 90 anni. Quindi, noi che siamo in mezzo, che succede? Non necessita di noi. Necessita. Allora, prima di finire questo primo blocco insieme a Massimo Giuliani, visto che stiamo parlando di ieri e oggi con grande osmosi. Facciamo sentire, se ce l'abbiamo, il trailer dell'ultimo film di Iñárritu, Iñárritu, che è The Revenant, il re di vivo, con un grandissimo Leonardo DiCaprio. Stavolta speriamo che l'Oscar sia suo, così il nostro amico Francesco Pezzulli potrà godere del suo doppiaggio. E allora questo è The Revenant. E poi la cosa migliore da fare sarebbe finirlo alla svelta. Avrà bisogno di cure finché non si riprenderà. Ho capito. Togliti! Aiuto! Che è successo? Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Ha avuto degna sepoltura. Avevo solo mio figlio. E lui me l'ha portato via, capito? Lui ha paura. Sa quanta strada ho fatto per trovarlo. Non ho più paura di morire. Sono già morto una volta. Voice Anatomy. Bentornati, signori miei, a Voice Anatomy. Al mio fianco sempre Massimo Giuliani. Con lui stiamo giocando a ping pong con la sua vita, che festeggia quest'anno i 60 anni di grande professionalità all'interno del mondo dello spettacolo. Ma è tristezza però rivederlo. No, però è bello, perché sei qui, sei vivo, sei giovanile. Eh sì, ancora sì, non, tanto non si vede che mi sto con le mani, no, mentre dici che sono ancora vivo. No. Però a parte qualche accenno di capello bianco, perché accenno rispetto a me c'è qualche accenno, io sono da 30 anni, tu ci sei, per cui questo ping pong fra direzione, doppiaggio, attore giovanissimo, per poi dare la giustificazione al fatto che sei andato in pensione 25 anni fa, insomma 26 quest'anno, perché hai lavorato il primo contributo a 4 anni. Quanti anni avevi? Pensa che sì, 4 anni e mezzo. Pensa che ci sono stati degli anni in cui io a scuola sono andato, fai conto, un mese, un anno non sono andato mai, ho fatto gli esami da privatista, perché poi all'epoca c'era tantissima televisione, si facevano tanti sceneggiati, Napoli, Torino, Milano, e c'era la TV dei ragazzi, c'era, che era una cosa straordinaria. Sì. Per cui noi, io, Loretta, Goggi, Roberto, Chevalier, che ci conosciamo da bambini, passavamo da una cosa all'altra, non stavamo fermi mai. Per cui era veramente, c'avevamo un numero di contributi veramente da... Ma c'era anziani. Grande professionalità, non c'erano scorciatoie televisive talent di qualsiasi tipo, c'era solo gente che faceva questo mestiere e studiava per fare questo mestiere. E tu hai giocato veramente... ricitarmi questo ping pong incredibile fra sale doppiaggio, sale cinematografiche, set cinematografici, il teatro che non ha mai abbandonato, e la televisione è anche leggera da un certo punto di vista. È la prima volta che dico da un certo punto di vista, perché lo dico spesso, mi dicono i miei. Ci segniamo quante volte. Questa è la prima volta. Va bene. Ormai me ne accorgo. Per cui dopo questa cosa dei bellissimo, questa avventura con Sandra e Raimondo, che ricordo hai di questi due professionisti? Straordinario dal punto di vista umano e professionale. Sono due persone alle quali ho voluto veramente bene e non potevi non volergli bene. Erano due persone immense, e immense dal punto di vista professionale. Tu sai perfettamente, Pino, noi facciamo questo mestiere da tanti anni, quanto un attore comico protagonista sia geloso della risata. Raimondo era mostruoso in questo, cioè non era pronto a farti da spalla, era talmente sicuro giustamente di se stesso che non aveva timore che qualcuno potesse oscurarlo. Quindi lasciava l'ultimo applauso tranquillamente. Il famoso Sorvianeken nacque una volta in prova, e lui mi ha detto: oh, questa cosa falla sempre, perché qui prendi la risata, mi raccomando non fa che non la fai più, eh. Cioè lui mi disse... noi a quel punto eravamo diventati una macchina da guerra, nel senso che noi avevamo dei testi, avevamo massima libertà dagli autori, e in prova noi facevamo gli sketch così com'erano. Poi quando andavamo a farlo, che era in diretta la trasmissione, un anno, poi due registrata, quando andavamo a farlo ognuno di noi si era pensato una serie di battute da infilare dentro, e al volo le infilavamo, e quello ti risponde, ma era da ammazzare. C'è uno sketch che io ho rivisto anche ultimamente, ripetuto a da qualche te parte, che te, a te che te, sì, uno sketch sulla tomba della presunta morta Sandra Mondaini, al quale il marito siciliano va a porre omaggio dei fiori, e arrivano man mano tutti gli amanti, e lui scopre che lei ha avuto una quantità di amanti, e c'è un momento della scena che si vede benissimo che Raimondo, io, Tonino Micheluzzi e Enzo Liberti stiamo ridendo come disperati perché abbiamo cominciato a dire battute una libertà. E ci copriamo tutti col fazzoletto facendo finta di piangere e mentre stavamo a ridere come pazzi, perché era lui una persona adorabile con questa capacità mostruosa di ridere su tutto, anche e soprattutto su se stesso. Non so, c'è un episodio molto buffo che tra l'altro è conosciuto da pochi. Nel 70, se non sbaglio, Raimondo fu operato di tumore al rene. All'epoca, nel 70, non si sapeva ancora bene come ne saresti uscito, a parte che lui conservava la prima pagina del Momento della Sera, Momento Sera di Roma, il roseo, che era scritto, era uscita con "è morto a Roma Raimondo Vianello". E lui l'ha conservata. E la cosa meravigliosa è che lui, prima dell'intervento, andò a parlare col direttore della Rai. Gli disse: "Tanto lo so che state preparando il coccodrillo", non so se tutti gli ascoltatori il sanno, ecco. È il pezzo che si prepara per i grandi personaggi in odore purtroppo di morte, per cui il giorno dopo la morte tu trovi 8 pagine sul giornale, un filmato di 4 minuti, sono già tutti preparati, si chiamano coccodrillo dalle lacrime del... E lui disse: "So che state preparando il coccodrillo per me, fatelo fare a me". E il direttore ha detto: "Come a lei?" Lui ha detto: "Sì, mi date una telecamera, io mi metto davanti alla telecamera e dico: signori e signori, buonasera, sono morto. Altri vi diranno come quando. Ora vi parlerò un po' di me. Nacqui nel lontano mil..." Che era una cosa straordinaria, geniale. Sì, mi anticipo sui tempi. E il direttore disse: "Ma è macabro", e non gliel'ha fatto fare. Ma e lui, dai! E lui è rimasto malissimo di questa cosa che non gli avevano fatto lui fare. Lui era macabro. No, lui era pazzesco. Disincantato, divertente. Ha giocato a pallone fino all'ultimo secondo. Benissimo, poi. Tra l'altro. Giocava bene a pallone. Ma è stato, non vorrei sbagliare, lui è stato l'unico giocatore non professionista convocato nella nazionale militare italiana di calcio. Ah, beh, questo... Perché lui giocava veramente bene. Voi dovete sapere che Massimo Giuliani, c'è un'applicazione adesso su tutti i vostri telefonini, si chiama applicazione Giuliani Massimo. Voi cliccate sopra e qualsiasi cosa vi sarà detta. Lui è lo scibile, nonostante sia veramente ancora giovane, ovviamente, nonostante i 60 anni di carriera, perché prima è 61, poi perché ha cominciato a lavorare a un anno. Lui veramente conosce questi meandri storici del nostro... Ma sono belle, perché sono le cose poi che avvicinano di più il nostro ambiente alla gente, quello che lo fanno poi forse amare di più, perché ognuno quando incontra dei personaggi dice: "Ma com'è nella vita? Ma cosa ha fatto per arrivare? Perché è davvero così simpatico? È davvero Raimondo così..." Raimondo era adorabile. Raimondo e Sandra erano adorabili. Non potevi non amarli. Ma non tuttora ridi, infatti, quando passano quelle storie in bianco e nero. No, poi lui, lo dico sempre, dal punto di vista professionale... Abbiamo sempre detto: la comicità è fatta fondamentalmente di tempi, più ancora che di battute. E quello che è esattamente la pasticceria nella cucina, così è la comicità nella recitazione. Nella cucina tu puoi anche allargarti, buttare una cosa di più dentro, ma provo. La pasticceria è matematica, se sbagli una cosa il dolce non viene. La comicità è così: se sbagli un tempo, la battuta più divertente del mondo non farà ridere nessuno. Col tempo giusto, la battuta più cretina fa ridere tutti. Raimondo era il tempo comico fatto persona, cioè non aveva... alla frazione lui ti faceva ridere con qualunque cosa, perché il tempo era talmente perfetto e ce l'aveva proprio dentro che non potevi non ridere, ridevi per forza, era matematico. Vedi che bello, io volevo parlare di te, ma parlare di te significa parlare anche delle persone che ti hanno circondato e che tu hai circondato, no? Questo senza dimenticare la tua grande professionalità a fianco di questi grandi, perché questi grandi poi avevano dei grandi intorno, perché come si dice sempre, dietro un grande uomo c'è una grande donna, beh, dietro un grande attore ci sono altri grandi attori e grandi attrici. E lui... Sono stato fortunato, perché... Bravo, ma fortunato perché ho avuto la possibilità e la fortuna che non tutti hanno nella carriera di lavorare con dei miti, cioè abbiamo detto adesso Raimondo e Sandra, ma prima, che ne so, da Paolo Panelli, Stoppa la Morelli, Paolo Panelli. Come parlava Paolo Panelli? Tu lo sai, imita, perché tu poi imiti tutti, cioè riesci? No, poi io ci ho fatto 2 anni con Enrico Montesano di Pazza Famiglia. È vero, Pazza Famiglia, sì, c'era lui. Oramai non aveva più, Paolo non ha mai avuto memoria, nel senso che non ha mai studiato una battuta a memoria, ha campato tutta la vita col suggeritore e con i gobbi, i famosi cartelloni messi fuori campo da leggere. E mi ricordo che noi facevamo questa cosa di Pazza Famiglia, io facevo l'amico di Enrico che abitava sopra di lui e Paolo il suocero che viveva con lui, e c'avevamo una quantità di scene per cui sapeva tutto di tutto, e a un certo punto c'era una scena in cui io entravo e lui doveva salutarmi, io mi chiamavo Marcello, mi doveva dire: "Ciao Marcelli, andare avanti", e abbiamo girato sta scena 8 volte. Lui, perché? Ogni volta si apriva la porta e faceva: "Oddio, come si chiama?", perché non gli veniva il nome, finché gli hanno dovuto mettere il cartello con scritto "Ciao Marcelli", perché ogni volta, se no, era già grande, sì. Panelli. Poi, va bene, ma tante cose, ma è bellissimo chiedere queste avventure dietro le quinte. E torniamo a un altro personaggio sempre televisivo, visto che stiamo percorrendo questa strada, un altro personaggio molto fortunato di una serie molto fortunata, che è stata quella dei ragazzi della terza C, che è stata una delle prime fiction italiane di grandissimo successo. Un'idea geniale di Enrico e Carlo Vanzina, perché quello era il periodo in cui tu in televisione vedevi Dallas, Dynasty, e esatto, giustamente lo dissero: ma a noi che ce frega del petrolio di questi e di sto giro di ragazze poco raccomandabili, facciamo qualcosa che tocchi noi. E sono andati a costruire una storia che era perfetta, perché in una classe tipo c'erano ognuno di noi, ognuno di noi ha avuto quei compagni, sì, quella carina che non la dava a nessuno, quella secchiona orrenda, quello che non studiava, quello con i problemi di peso, era perfetto. Sì, sì, e infatti loro ebbero questa idea geniale, e trovarono i personaggi giusti, perché tutti i ragazzi erano giusti. E tu eri Ciro il cartolaio. Ci abbiamo un momento di Ciro il cartolaio e poi torniamo in studio. Siete preparati? Sei fortunato a trovare me. Io sono la persona più adatta per la tua inchiesta sul mondo del lavoro. Tu mi chiedi in un futuro che prospettive ci possono essere per un giovane come te. Guarda, voglio essere ottimista. Nessuna. Vedi, il mestiere del cartolaio è un mestiere duro, difficile, pericoloso. Pericoloso. E beh, anche noi abbiamo tanti problemi. C'ho tanta passione, poi adesso c'è una crisi. Scienze, guadagna. Mi dispiace, ma a questa domanda non posso rispondere, sono coperto da segreto professionale. Ah, Ciro, aiutami te a fare quest'articolo, io non ci riesco. Non c'aver paura, c'ho io quello che fa per te. Ecco qua il nuovo dizionario della lingua italiana. Nuovo? Oddio, danno nuovo, ma che quasi nuovo. Comunque, unico proprietario, gommatissimo, pochi chilometri. E questa era una parlata dell'entroterra dell'Interland. Ci eravamo inventati questa cosa simile umbro marchigiana, sì, mischiata, una cosa mischiata per dargli un sapore diverso, che non fosse romano anche lui, per trovare una cosa diversa. No, e poi tu hai sempre cercato questo modo. Tu sei un grande affabulatore, un grande raccontatore. Io rimango sempre estasiato quando tu racconti una barzetta. È l'unico che io conosco, a parte forse Proietti. Gigi insuperabile. Vabbè, però Gigi, tu sei quello che riesce a raccontare una storia lunghissima senza affaticare nessuno, che normalmente uno dice vabbè poi, invece no, quando la racconti tu. Io adesso andiamo in pubblicità, io te ne farei preparare una storiella di quelle tue, che sai raccontare bene, come hai fatto benissimo in apertura il monologo del grande John Belushi. Intanto abbiamo un minuto per pensarci. Vedi che bello questa, io continuerei a parlare con lui di televisione, di sceneggiati televisivi, perché poi la voce lì è fondamentale. Tu ti sei trovato bene, sei riuscito subito a declinarla bene fra doppiaggio, teatro, televisione. Ma è stata la mia salvezza quella. È stata la mia salvezza. Primo, perché dal punto di vista professionale ti arricchisce, perché il mestiere è sempre quello, però tu sai perfettamente quanto siano diverse le tecniche necessarie. Tu, come reciti in teatro, non puoi recitare in televisione, come reciti in doppiaggio, non puoi recitare in cinema, e così via. E quindi il bisogno di adeguarsi costantemente mi è servito da un lato, e dall'altro mi è servito tutto sommato a non annoiarmi mai, ma avere sempre stimoli soprattutto diversi. Non annoiare nessuno. Chiudiamo questo intervento con un pezzetto dei Blues Brothers, piccola pubblicità, e poi torniamo. Pane bianco tostato liscio, con niente sopra. Elwood. E quell'altro ha ordinato la bellezza di 4 polli fritti, figurati, è una coca. E Jack, Cristo, i Blues Brothers. Ciao, Jack. Matt. Ciao, Elwood. Allora, come si stava in galera? Ah, un cesso. Facevano un'anatra all'arancia schifosa. Non può essere peggio della Chateaubriand che fanno al carcere di Terre Haute. O della Bechamel del penitenziario della Contea di Cook. Le cucine federali sono in ribasso. Matt, io ed Elwood vogliamo rimettere insieme la banda. Ci servi tu e Blulu. Oh, amico, non dire certe cose qua dentro. La mia vecchia mi fa secco. Signora, deve capire che questo è un affare più importante di qualunque problema familiare che possiate avere. Signora, la conforterebbe in qualche modo sapere che quello che stiamo chiedendo a Matt di fare è una cosa sacra? Vede, siamo in missione per conto di Dio. Non voglio bestemmie qui dentro, Non si bestemmia qui dentro! Voice Anatomy. Voice Anatomy, eccoci di ritorno, sempre in diretta da Radio 24, sono le 15:53 secondi. Vi ricordo tutti i nostri riferimenti, il numero verde per partecipare in diretta, se volete, 800 24 00 24, gli sms che state mandando già parecchio, ora ne leggerò qualcuno, 349 238 6666, le nostre pagine ufficiali sia Facebook sia Twitter e i podcast che scaricate sempre molto volentieri, essere sempre molto numerosi. Bene, qui vicino a me c'è sempre il grande Massimo Giuliani, grande d'età, non solo, no, non è vero, smettila. Ci siamo goduti parecchi passaggi della sua carriera ricchissima, dai Blues Brothers, che secondo me è una, come dice quello, una pietra emiliana della tua storia, dai Ragazzi della Terza C, tutti i tuoi sceneggiati, alle Avventure con Panelli, con Raimondo Vianello. Ho detto poco fa che sei un grande raccontatore di storielle, anche quelle lunghe, perché riesce ad essere affascinante come tempi. Se ci hai pensato e una ti va di raccontarla, anche per far capire il tuo modo di raccontare storie. Sì, ce n'hai tante, io almeno ne ricordo. Pierino il Gufo? Non lo so. Pierino il Gufo rimane, secondo me, la barzelletta. Il classico per eccellenza. Sì, papà e Pierino che camminano per strada e a un certo punto, camminando per strada, beccano due, può succedere che stanno litigando per strada con toni anche molto accesi, allora sai che ti dico, e parte l'insulto, no? Allora Pierino tira per il braccio, papà dice, papà che ha detto quello? No, niente, stavano discutendo, ma mi pare che ha detto no, Pierino, ti sbagli, papà ho sentito bene, ha detto proprio no, Pierino ha detto un'altra cosa, e che ha detto? E ha detto gufo. Come gufo? Sì, gli ha detto gufo. Ma perché è un insulto gufo? No, non è un insulto, perché gufo è il nome di un uccello. Però in alcuni casi, anche papà, sai, a volte un po' seccato dice gufo, che non sei altro. E quindi ha detto gufo? Sì, sì, gufo, gufo. Ma gufo che uccello è, papà? Che è il marito della civetta? No, amore, non è che la civetta, siccome finisce per A e femmina, il gufo... c'è il gufo maschio e il gufo femmina. La civetta, anche se si chiama civetta... quindi anche l'aquila non è solo femmina? No, anche l'aquila, amore, c'è l'aquila maschio e l'aquila femmina, che sarebbe il passerotto. No, amore, l'aquila è una cosa, il gufo è una cosa e la civetta, e il passerotto è un'altra cosa, che sarebbe l'usignuolo. No, l'usignuolo si chiama usignuolo proprio perché fischietta, che il canarino. No, il canarino è un'altra cosa, amore mio. Il canarino, il pettirosso. No, amore, il pettirosso si chiama pettirosso perché c'ha tutto il petto rosso, come il Barbagianni, quindi si chiama Gianni e c'ha la barba. No, il Barbagianni sarebbe Pieri ha detto vaffanculo. Ci sta tutta, alla fine è stremato. Però vedete, io la so, la sappiamo, però raccontata così ti accompagna, è teatrale, è televisione, ci sta tutto, insomma, no? Secondo me è la barzelletta. Sì, questa è la barzelletta, però è bellissimo. Va bene, va bene. Allora, stavamo raccontando prima, avete sentito una voce che ha utilizzato in questo momento per fare il bambino Pierino, una voce che assomigliava a un grande eroe dei cartoni animati. Com'era? Che succede, amico? Sapevo che dovevo girare a destra per Cucamonga. Ovviamente sai che questo significa guerra. E questo è Boys Anatomy, ma questo era Massimo Giuliani, soprattutto questo era Bugs Bunny. Ce l'abbiamo un momento di Bugs Bunny? Vai, Valeria. Ti potresti mettere nei guai con quel fucile. Non è ancora aperta la caccia ai conigli. Ah, no, davvero? No. Questa è la stagione di anatre. Questo è Franco. Questo è il primo Bugs Bunny. L'abbiamo utilizzato anche per parlare. Franco Latini. Franco Latini, che faceva anche gli altri. Sì, come non tutti sanno che probabilmente nella versione americana fatta da Mel Blanc, Mel Blanc faceva tutti i personaggi. Tutti quelli della Warner. Tutti li faceva. Infatti, se tu vedi i vecchi filmati, c'è scritto voce dei personaggi Mel Blanc, che per loro era Gesù Bambino, perché tant'è vero, nel museo della Warner a Burbank c'è un piano riservato soltanto a Mel Blanc. Ma anche perché erano tanti personaggi della Warner. Lui faceva Bugs Bunny, Gatto Silvestro, Daffy Duck, la nonna, faceva Titti, tutti senza ausilio elettronico, non erano lavorati. Non era così. No, era lui, la sua capacità di lavorare con... Loro mi hanno detto che più volte lui si doveva fermare perché gli sanguinavano le corde vocali dallo sforzo, ma era fenomeno. E voi quando avete ridoppiato, ovviamente dopo il grande Franco Latini, avete ridoppiato tutti i personaggi cercando di calcare. Sì, di calcare, loro l'originale. Sono venuti, hanno mandato, la Warner mandò proprio in tutto il mondo, quando si fece Space Jam, che era il primo film, credo, misto attori sì, e cartoni animati, e loro dissero: ma voi avete sempre fatto i cartoni come se fossero una cosa stupida, per noi sono i gioielli, pretendiamo che siano fatti in modo corretto e pretendiamo che sia siano assolutamente identici all'originale. Il loro punto di vista era: un turista italiano deve andare in vacanza a Tokyo, sta in un albergo di Tokyo, accende la televisione, va nel bagno, si fa la barba, sente Bugs Bunny in giapponese, però deve dire questo è Bugs Bunny, quindi vuol dire che deve parlare allo stesso modo e con la stessa voce in tutto il mondo. E io ho fatto 7 provini, 7, a distanza di 2-3 mesi me l'hanno fatti fare 7, man mano... Voice test, come si chiama per voi? Sì, il test vocale che loro chiedono spesso. Sì, e poi spesso... era comico perché tu sai perfettamente che noi andiamo a lavorare sull'istinto, sul tentativo di trovare un suono, mentre loro lavorano tecnicamente, per cui lui mi diceva: Massimo, sei molto vicino ora a originale, però tu adesso stai chiudendo palato con chiusura sotto, prova a chiudere palato con chiusura sopra. E io dicevo: James, non hai capito che non so come sto a chiudere palato, io sto a cercare un suono, una voce, che ne so come l'ho chiuso il palato. Sì, sono molto tecnici. Sono tecnici. No, perché si chiudi sopra viene meglio suono, tu stai chiudendo sotto. Ma chi fa Paperino era sempre Latini, faceva Franco, era... Franco all'epoca faceva anche Paperino. È impossibile, sì, sì. Era difficile. No, ma sai perché è impossibile? È difficile perché ritrovare il suono non è difficile, farlo poi parlare con quel suono in modo comprensibile, sì. Cioè questo si sa fare. Ma non capisci quello che dico? Com'è? Ma non capisci quello che dico? Mentre in originale capisci tutto. Ma anche adesso non capisco quello infatti, che dico. Infatti, certo, anche adesso. Ma io sto adesso facendo una voce particolare? Ah, non è la mia? No, Massimo, abbiamo parlato di passato, di presente. Futuro, che succede? Ma? Il futuro, conto sui prossimi 60 anni. E di festeggiarli insieme. Sì, sì, i prossimi 60, quando ne faccio 120. La cosa che veramente mi secca, posso dirlo, dirla. Che prima o poi si crepa. Sì. E che magari fra 100 anni trovano il sistema che si poteva andare avanti per 180-190 e io non ho fatto in tempo e questo mi secca. Ci penso anch'io e credo anche le persone. Questo è Voice Anatomy, e non è Life Anatomy. No, questo mi secca. Ma questo mi dispiace. Questo mi dispiace. Trovano immediatamente la pillola della sì, gioventù. Che duri, i 40 anni ti durano 60. Esatto. No? Per cui tu da 40 fino a 100 sei identico, non succede nulla, non hai bisogno di pezzi di ricambio, non devi andare a farti interventi, cose... protesi al ginocchio che mi stanno a dire perché te fai la protesi al ginocchio l'anca. Ma lasciamo perdere e così via e magari succede e io starò da qualche parte, guarderò con un rodimento che metà me basta signori, benvenuti a Medicina 33, ospite Massimo 133 a proposito ovviamente sono arrivati tanti sms di complimenti, lo sapete, poi mi piace leggere quelli che attaccano frontalmente. Sono belli, sono divertenti. Soprattutto sono molto intelligenti, io lo dico sempre, ogni puntata, lo sto raccontando prima a Massimo, si fu un commento di una nostra ascoltatrice che mi disse: bene Pino, insegno, sono contento che tu fai questo programma la domenica così posso accendere l'aspirapolvere e pulire casa visto che avete la stessa voce. Io lo dico ogni puntata perché è bellissimo. Ti fanno tanti complimenti ovviamente Massimo, indimenticato, non sapeva qualcuno che eri tu John Belushi, il tuo sotto un certo punto di vista potrebbe essere usato come un gioco aperitivo, ogni volta lo dici si beve, tu pensa che tutti ubriachi qui. Se bisogna se questo programma inviterei Tony Fuochi, la voce più sexy d'Italia, non lo so, mi sfugge, io chiedo scusa, ma mi sfugge un attimo, non lo conosco, però se non lo so, siamo tanti un po' però più... in Italia non è che ci conosciamo sì. Tutti per cui... no, infatti molto ovviamente magari un doppiatore del nord sì. Mandateci, ecco, di Milano, Tony Fuochi, chiediamo scusa ovviamente, certo che sì, fate bene a mettere in evidenza, sapete poi purtroppo no, ma il doppiaggio nasce a Roma, non fatto solo dai romani, sapete perfettamente che veniamo da tutte le parti d'Italia, Milano è un po' una nicchia come Torino di questo loro, ma ci sono grandissimi professionisti, per cui magari se sei un po' più chiaro mi informerò sicuramente e rispetterò questa tua... messa in evidenza del bravo Tony Fuochi. È più a Roma anche perché è nato a Roma, nasce qui nel periodo del nasce il negli cinema anni 20 proprio. Sonoro, il periodo fascista, autarchia, è impensabile sentire un film in lingua non italiana, c'era un tasso di analfabetismo tale per cui non si potevano certo mettere i sottotitoli perché nessuno avrebbe capito niente e quindi parte il doppiatore, non esisteva il doppiatore, si chiamarono i più grandi attori di teatro a prestare la loro... da sì, Gino Cervi a, allo stesso Stoppa, la Morelli, Ruffini, cioè straordinari attori di teatro, e cominciarono, e per fare i dialoghi, la cosa divertente che non molti sanno, anche gli appassionati di doppiaggio, per far fare i primi dialoghi scelsero grandi comandanti di marina andati in pensione, perché conoscevano la lingua, perfettamente, certo, la lingua. Per cui il comandante De Leonardis, il comandante Contestabile, furono i primi grandi dialoghisti del cinema dall'America all'Italia. Insomma. Vi ricordo l'applicazione Massimo Giuliani, si scarica gratuitamente e potete metterla sul vostro telefonino. Cioè, è bellissimo. Un altro messaggio divertente: sali in macchina, accendi la radio e ti ritrovi a chiederti ma che cacchio ci avranno da dirsi John Belushi e Aragorn, figlio di Arathorn, quegli strani incroci, no? Luca di Lecce, caro Luca, sì, no, è bellissimo avere queste possibilità di racconti. Io vorrei veramente parlare tantissimo ancora, Massimo. Poi c'è stata una piccola avventura anche con l'imitazione di Francesco Totti, che è stata divertente, un po' così, ci ha avuto delle spigolature, ma ha creato un po' di problemi. Un po' di problemi, secondo me, non c'era veramente motivo. No, anzi, da lì è scattato poi il meccanismo di far diventare simpatico un personaggio che fino a quel punto era solo un grande calciatore. Sì, insomma. Lui stesso poi ha fatto delle pubblicità facendo la parodia della parodia che facevo io di lui. Esatto. Cioè, giocando sul fatto che parlava romano, che sbagliava i verbi, che faceva delle cose. Non era niente, non avevamo mai detto poi nulla. Poi fatta da te, offensivo. Non è che l'ho fatta io, essendo di un'altra fede, no. Poteva sembrare un'ironia graffiante. No, l'avevo fatto anche con grande amore. Con grande amore. Beh, tu hai un grandissimo cuore giallo-rosso. Non, per sì, cui... per quello rimane a vita e non no, si può... No, nessuno lo può cancellare. Non noi siamo può... amici nonostante... Nonostante questo, sì. Mi chiama anche a lavorare insieme a lui ogni tanto. E devo dire che siamo fra romanisti e laziali, di solito, dopo un derby parte la serie di messaggi telefonici nei confronti di chi ha perso. Fra me e Pino questa cosa non c'è mai stata. No, è sempre rispettosa, no. Perché siamo meritocratici, cioè riconosciamo, come quest'anno ha detto no, non c'era rigore, vabbè, ma non c'era la mia squadra, per cui non ha giocato, per cui era totalmente inutile. Dall'altra parte il nostro tecnico del suono fa delle facce poco raccomandabili. Come purtroppo da un po' di tempo non c'è la Roma, non sta a giocare, però vabbè, questo è un altro discorso. Potete rimanere la prossima volta verso il finale, che io mi collego sempre con i nostri amici, con Pardo e compagnia bella, a parlare di calcio. Mi danno i risultati, quando poi gioca la Lazio me lo dicono all'ultimo. Risultato, perché capito? Beh, ieri è andata bene. Sì, no, è quello che ti fa arrabbiare ancora di più. Ecco, adesso voi direte Aragorn che c'entra con John Belushi che stanno a parlare di calcio di Roma e Lazio. Per cui, Massimo, c'è un altro momento, c'è una cosa a cui sei molto affezionato, a parte questo John Belushi ovviamente, che è stato parli del doppiaggio? Del doppiaggio, sì. Oddio, mi coglio un attimo impreparato, perché adesso c'era quella la bellissima serie della famiglia del West, come si intitolava? La conquista del West, era una serie bellissima. Bruce Boxleitner si chiamava quell'attore giovane. Poi tu hai doppiato anche Mel Gibson giovane, i primi film di Mel Gibson li ho fatti io, sì, Gli anni spezzati, bello, un anno vissuto Gallipoli. Gallipoli era il titolo, Air America, sì. Di Peter Weir era Peter Weir. Sì. Tutti i nomi di figlio, Peter Weir o Peter Weir? Peter Weir, perché Weir è australiano. Ignarritu non ci ha detto niente nessuno, per cui è passato inosservato. È scritto con l'accento sull'A, è scritto in A con l'accento sull'A, Ignarritu. Quindi ho conosciuto la voce di Giuliani quando doppiò Scott Bakula in Quantum Leap. Sì, che bella che era. Grazie a lui è diventato uno dei miei telefilm preferiti. Era un telefilm meraviglioso. L'idea era geniale, da cui poi hanno fatto una serie di film anche in Italia, partendo da quell'idea, Il viaggio nel tempo, insomma, quello era molto bello. Ed era fatto benissimo, tra l'altro, spendendo dei soldi veri, perché ogni episodio c'erano delle cose pazzesche, quindi telefilm seriale fatto veramente spendendo il denaro, ed erano molto belli, molto molto divertenti. Un altro ti fa i complimenti, la voce è identica, è quello che ho detto anch'io fino alla mia, adesso è identica alla mia, alla tua, ma la tua da sempre è incredibile, c'ho la voce identica alla mia. Un'altra persona di Francesca dice Tony Fuochi, fra le varie cose doppia anche i videogiochi Cavalieri dello Zodiaco e ha fatto anche radio. Va bene, buono a sapersi, ci metteremo sicuramente in contatto. E io ti devo salutare, Massimo, ma non prima di averti fatto rifare John Belushi un'altra volta. Eh sì, mi dispiace. Cioè, no. Poi abbiamo una musica di Aretha Franklin, Think, da far partire per andare in pubblicità. E dai, Valerio, ma fai il tecnico del suono, santa miseria. E allora, ecco, sta cercando oppure un Ray Charles, dannato. Un pezzo Ray dei Charles, Blues Brothers, santa miseria. Su, ci sei? Io faccio partire. Ci sei? Everybody sta needs cercando. Somebody, dai. Everybody sì. needs somebody. Ci sei riuscito a trovare una cosa? La sta cercando. Allora, io parlo tempo. Con la direzione generale di Radio 24, Confindustria. Ci sono tante brave persone sì. in giro che cercano lavoro, bravi tecnici del suono, che possono essere più rapidi. In certe radio tu dici, vorrei un pezzo di... Ma è già suona, l'hai trovato? Sarebbe quelle non che senti, sono registrazioni, eh? Esatto. Tu le senti registrate, allora, no, in diretta, eh? Va bene, ci hanno avuto tutto il tempo di andare in archivio, prendersi il ti pezzo. Ti sta applaudendo, Valerio, va bene. Così, eh? La pensate nello stesso modo, si vede, va bene. Non fa niente. Allora, salutiamo Massimo Giuliani. Massimo Giuliani ovviamente saluta in questa maniera... Grazie. Grazie a voi, mi sono molto divertito. A chi lo dici? E chiudiamo con Dal Vivo, il pezzo di John Belushi tratto dai Blues Brothers, il momento delle scuse di fronte alla fidanzata che lo rincorrerà per tutto il film. Vai Massimo! Ti prego non ucciderci, ti prego non ucciderci. Lo sai che ti amo, baby. Non ti volevo lasciare, non è stata colpa mia. Non ti ho tradito, dico sul serio. Ero rimasto senza benzina, avevo la gomma a terra. Non avevo i soldi per prendere il taxi. La tintoria non mi aveva portato il tight. C'era il funerale di mia madre. Era crollata la casa. C'è stato un terremoto, una tremenda inondazione. Le cavallette. Non è stata colpa mia. Lo giuro su Dio. Massimo Giuliani, signori. Voice Anatomy. Che bella avventura questi primi 50 minuti di trasmissione qui a Voice Anatomy, sempre in diretta da Radio 24, sono le 15:18:52, abbiamo avuto il piacere di farci accompagnare per mano da Massimo Giuliani, un po' in tutti i meandri della voce, abbiamo parlato di teatro, di televisione, di sceneggiati, di pubblicità, di doppiaggio e non solo, di grandi uomini che hanno accompagnato la sua vita e direttamente la nostra in un altro modo, soprattutto la vostra come radioascoltatori e anche videoascoltatori. E a questo punto, per continuare a parlare di voce, vi ricordo ancora i nostri numeri di telefono 800 24 00 24 per essere in diretta con noi, il numero degli SMS che è quello che utilizzate più di tutti, che è il 349 238 6666 e ovviamente tutte le declinazioni web 2.0 che conoscete perfettamente fra Facebook, Twitter, eccetera. Per parlare ancora di voce mi ha raggiunto una emozionatissima Flavia Gentili, che dice è un'attrice, no non è un'attrice, è doppiatrice, è una direttrice di doppiaggio, no non lo è una cosa. Allora dice, perché hai chiamato Flavia Gentili? Perché Flavia Gentili è responsabile molto importante della Emons, che è una casa editrice da un certo punto di vista, e due, l'ho detto la seconda volta, e che fa audiolibri, che è una nuova declinazione per poter magari leggere un libro o farsi leggere un libro se si è in macchina, ma ne parleremo tranquillamente durante questi interventi, perché anche grazie a lei avremo delle interazioni telefoniche con tre grandissimi interpreti di questi audiolibri. Allora, Flavia Gentili, benvenuta, sei sempre emozionata, ho parlato tanto per rilassarti, farti rilassare. Grazie Pino, grazie a te e buon pomeriggio a tutti. Senti, sono felicissima di essere qui, sono felicissima. C'è una voce che hai, tu non hai mai fatto l'audio, non hai mai letto un audiolibro? Mai, mi piacerebbe però una volta passare dall'altra parte la barricata, ma passeranno ancora tanti anni. Comunque grazie di avermi invitato. No, questa è una trasmissione che parla di voce e non era possibile far finta di niente, non perché io abbia avuto dei collegamenti con voi, perché qui abbiamo parlato anche di un'altra casa editrice di audiolibri, perché faremo questo ovviamente, cercheremo di dare lo spazio degno a tutti. Giusto. E la Emons ovviamente è leader in questo settore. Come nasce la Emons e come nasce il tuo rapporto con loro? Da quanto tempo c'è questa nuova avventura per leggere un libro? Allora, l'avventura Emons inizia nel 2007. Io ho fatto per tantissimi anni, prima di occuparmi di audiolibri, ho fatto la libraia per quasi 30 anni e ho assistito a diversi tentativi di imporre è un verbo un po' troppo forte, però insomma di così presentare l'audiolibro al pubblico dei lettori italiani. E questi tentativi sono stati anche gloriosi, meravigliosi, ma non sono mai veramente andati a buon fine per tanti motivi, anche la tecnologia, devo dire, marciava contro. Noi siamo arrivati in un buon momento, il 2007 stavano cambiando anche i modi di usufruire proprio dell'audio, il computer, internet, il download, insomma tutte queste belle cose che adesso ci aiutano immensamente. L'Amons nasce in realtà per la volontà di tre folli ma coraggiosissimi tedeschi, perché in Germania gli audiolibri sono da tanti anni una realtà fortissima. Come negli Stati Uniti, se non sbaglio. Esattamente, no? 30-40 mila titoli e tutti i lettori leggono non solamente il cartaceo ma anche leggono ascoltando, sin da quando sono piccini. E questi tre tedeschi, con un forte rapporto d'affetto e di stima nei confronti dell'Italia, hanno detto: ma perché? Due di questi tre tedeschi in realtà vivono in Italia, perché non proviamo a buttarci in questa impresa? E così è stato, hanno raccolto intorno a sé un piccolo gruppo di persone altrettanto folli, tra cui me, ed è nata questa casa editrice con l'idea di proporre però una cosa un po' diversa dalle solite. I libri li avrebbero letti o gli autori stessi, per cui c'era questa testimonianza, l'autore che legge il proprio libro. Il poeta che legge la propria poesia, insomma. Esattamente, oppure grandi attori. Cioè, noi volevamo veramente spaccare. E devo dirti, all'inizio molti ci guardavano anche con un'aria di leggera pena, perché era l'ennesimo tentativo di imporre l'audiolibro, di farlo conoscere. E invece poi, insomma, pian piano, con costanza, sempre un pizzico di follia, e ce l'abbiamo, insomma, fatta, ce la stiamo facendo, ecco. Quanti titoli avete sfornato? Abbiamo finora sfornato circa 180 titoli. Beh, in 8 anni. Sì, sì. Una bella avventura, anche perché poi le vendite di un audiolibro non si conosce tanto. Io ogni volta dico a Flavia, cerchiamo di fare qualcosa per rendere più popolare questa, perché tante volte la voglia, dico, quando leggo non ho tempo, eccetera. Molti viaggi in macchina, invece, uno potrebbe mettere un bel audiolibro e leggersi o farsi leggere questa avventura da altri, è come averlo letto da un... Assolutamente, no? Sì, sì, sì. E per cui bisognerebbe proprio educare le persone anche a questo, a leggere sicuramente, non abbandonate il cartaceo, mai. La radio e un buon libro credo siano proprio gli elementi migliori per la fantasia. E però l'audiolibro ti può aiutare in quei momenti in cui non riesci, magari con un titolo interessante, che poi i titoli vanno... Che linea editoriale avete voi, Flavia? Ma dunque, noi facciamo veramente un po' di tutto, dai classici ai contemporanei, romanzi, anche saggi, libri per ragazzi, insomma cerchiamo di ampliare sempre di più la nostra, diciamo, la nostra offerta, assolutamente. Ma quello che tu hai detto è molto giusto, cioè bisogna far conoscere sempre di più gli audiolibri, quello che gli audiolibri possono dare. E non c'è competizione in realtà tra il cartaceo e il libro, no, perché letto quello ad alta voce. Non è è solo un'interpretazione. Esattamente, sono momenti, come hai detto tu giustamente, uno, un grande lettore che adora leggere, si trova in macchina nel traffico, vorrebbe leggere, non può, legge ascoltando. E il libro ascoltato può rispondere anche a particolari esigenze. Quali sono le principali, per esempio, a parer tuo? Cioè, un non vedente, per esempio, ecco, fra poco avremo il presidente dell'Unione ciechi italiana, che sono persone molto attente alle, certo, voci. Abbiamo avuto ospiti al Gran Premio Internazionale del Doppiaggio, per cui anche lì può essere anche agevolare non poco una persona. Assolutamente, i non vedenti, gli ipovedenti, tutti grandi lettori, che gli anziani che, appunto, una soffrono leggera disabilità, certo, non riescono più a leggere, allora finalmente possono di nuovo leggere, perché comunque è una forma di lettura. Certo. Ecco. Senti, tu pensi che stia in crescita il mercato dell'audiolibro in Italia? Sta succedendo qualcosa? Con grande gioia e anche grande... No, con grande gioia dico sì, il mercato è in crescita. Siamo partiti da zero. Qual è stato il primo audiolibro che avete pubblicato? Allora, siamo usciti nel dicembre del 2007 con 4 titoli. Ci siamo presentati alla fiera di Più Libri Più Liberi, la fiera degli editori indipendenti, con 4 titoli, e nessuno capiva che cosa fossero. Pensavano fossero DVD, ed erano Caro Figlio con Testimone Inconsapevole, Francesco Piccolo con L'Italia Spensierata, Caos Calmo letto da Sandro Veronesi, da se stesso medesimo, e come del resto i primi due, e Pippi Calzelunghe letto dalla straordinaria Marina Massironi, tutti e 4 rigorosamente integrali. Ecco. Anche quella è stata la prima avventura. Il primo a entrare in sala di registrazione con noi è stato Caro Figlio, che devo sempre ringraziare perché ha avuto fiducia appunto in questo. Beh, non già c'era il suo cognome è già un aiuto a far capire che è stata una brava persona, insomma, quello che ti ha accompagnato all'interno di questo mondo. C'è qualche richiesta in lingua italiana all'estero dell'audiolibro? Sì, noi abbiamo contatti con gli istituti italiani di cultura, con i dipartimenti di letteratura italiana nel mondo, con le associazioni degli italiani, non so, dal Canada all'Australia. Sì, direi di sì, anche perché, come abbiamo detto prima, per esempio nel mondo anglosassone ha una disinvoltura con il prodotto audiolibro che qui ancora non siamo proprio riusciti ad avere, ma ce la faremo. Tu hai una grande disinvoltura, c'è una bellissima voce radiofonica, tu eri molto impaurita, invece sembra che tu parli tranquillamente per radio. È la passione. È l'amore che metti nel tuo lavoro, è quello che mi ha conquistato quando ci siamo sentiti la prima volta. Ma tu resti ancora con noi, perché dal prossimo blocco in poi cominceremo i nostri collegamenti con tre grandissimi professionisti. Sono un grande attore, una grande attrice, un grande autore. Non vi diremo i nomi, rimanete con noi. Voice Anatomy è appena cominciata. Voice Anatomy. Ed eccoci di nuovo in diretta dagli studi di Radio 24, Voice Anatomy. Al mio fianco la grande Flavia, responsabile artistica della Emons, possiamo dire, degli audiolibri. Grazie. Ti ho promossa sul campo. Meraviglioso. Uno sono dei felice. Tedeschi ti caccerà via. Va you bene. Made my day. Make my day, come diceva Clint Eastwood nel film Coraggio, fatti ammazzare. Make my day. Va bene, ma questa è un'altra storia. Abbiamo il primo collegamento di un grandissimo, bravissimo attore. Un caro amico, un collega, quante cose belle, siamo belli insieme, no? Perché dall'altra parte c'è stata una litigata furibonda fra l'universo gineceo femminile che abbiamo dall'altra parte del vetro per chi doveva mettersi in contatto con lui. Anche da Milano hanno detto ci pensiamo noi. Le capisco ma no, tutte. Sì, ma crea non poca gelosia dall'altra parte del vetro a chi sta parlando al microfono. E allora, visto che mi chiamo realmente Giuseppe, non poteva che esserci dall'altra parte Santa Maria. Ciao. Claudio Santa Maria. Ciao dall'altra... Claudio. Ciao Flavia, tu saresti il bambinello, Flavia. Esatto, che bella, che cosa bella, mi piace molto. Ancora sempre meglio, tutto sempre meglio. Claudio, non sai che sta succedendo da queste zone. Qui si sta facendo una trasmissione su una delle radio più importanti, che sono degli ascolti che superano le centinaia di migliaia di cose, e d'altra parte sono scene da rock, da... No? Sì, da concerto in diretta da parte delle fan sfegatate per quanto ti riguarda. Eccovi. Però buona, loro pensavano che eri qui fisicamente tridimensionalmente, invece stiamo parlando di audiolibri, per cui è giusto che tu sia presente soltanto in voce. Poi sarai presente esatto. Anche fisicamente quando dovremo parlare della tua storia, della tua vita e quello che sta molto succedendo volentieri intorno a te. Claudio Santa Maria è di Roma, nasce a Roma, sei anche molto giovane, nasci il 22 luglio del 74, caro Claudio, esatto, Santa Maria. Esatto. Sei nel quartiere Prati, se non sbaglio, a Roma? Sì, sono nato in Prati. Insomma, lavori già da tantissimi anni, ma non vogliamo raccontarti adesso, perché adesso sei stato protagonista di alcuni audiolibri molto importanti. Tanti. E adesso, quali sono stati i primi, la prima avventura che hai avuto con la Emons, Claudio? Beh, il primo è stato La Camera Azzurra di Georges Simenon. E, insomma, da lì mi sono innamorato dell'audiolettura, della registrazione audio dei libri. Devo dire che già a scuola ero un grande lettore, nel senso che mi richiedevano per leggere, quando dicevano chi vuole leggere, Claudio, dicevano audio, dicevano. Ma no, di solito uno dice io, e a me faceva piacere, insomma, quindi ho sempre avuto questa, perché dice quando leggi tu si capisce quello che dici, per cui è da lì che nasce anche la tua avventura artistica, insomma, hai capito già da lì che potevi essere un ottimo raccontatore raccontando e facendo esatto credere alla gente a quello che stavi raccontando, insomma. Esatto, un modo per, insomma, vedevo che riuscivo a comunicare quello che leggevo e quello, insomma, che, e la gente capiva, no? Che poi il fondamentale è che qualcuno capisca ciò che stai dicendo. Che poi tu hai una voce particolare che passa tranquillamente da ruoli drammatici, cattivi, a dei buoni, di buoni sentimenti, di buona famiglia. Insomma, passi da Batman a qualche assassino tranquillamente, da uno che cura le ferite della malavita all'altro invece che le realizza. E insomma, dopo di questo, poi che avventure hai avuto? Dopo di questa sei arrivata fino ad oggi, dove hai letto l'ultimo Carrère, Limonov, sì. Limonov. Sì. Però siamo passati anche dalla trilogia, parliamo della trilogia di Stieg Larsson, un'impresa di Santa Maria epica. E lì si fu chiamato Santa Maria, era solo Maria prima, lui si chiamava Claudio Maria. È diventato Santa Maria dopo la lettura della trilogia di Stieg Larsson. Integrale. Santa Maria di Svezia. Esatto, perché Claudio, come l'hai presa? Cioè, è bello, perché quando ti dico vieni, ti va di fare un audiolibro? Volentieri, certo, che cos'è l'Isola del Tesoro, Pirandello, quello che volete. Quando ti hanno detto la trilogia di Stieg Larsson, tu hai fatto, scusate, non c'è campo, ci sentiamo, oppure sei no, stato entusiasta? Con quei nomi, 2500 pagine, con quei nomi. I nomi, sì, svedesi, ma non lo no? So, c'erano a volte... In una frase c'erano sette parole incomprensibili. Ma no, se l'è cavata benissimo, sempre Claudio, sempre. Lì di interruzioni ci sono state, perché io so, visto che l'ho fatta anch'io, mi rendo conto che a un certo punto ti si incrociano gli occhi, ma io ho fatto, magari il libro della giungla ero tranquillo, perché c'era Baghera, Balù, e stavo tranquillo, ma tu il nome più tranquillo che avrei detto è stato Wolransen and Zeigen, esatto, sui fiordi di Zagerude, poi esatto. Però Claudio, poi dopo dai, poi dopo c'è stato Grimm, poi c'è stato un altro Simenon, poi c'è stato Gatsby. Grimm, è vero, un altro Simenon, il grande Gatsby. Il grande Gatsby era ben interessante da leggere. Molto, molto. Beh, molto. Figura affascinante quella del grande Gatsby. Fantastico, devo dire, molto molto bello quello. Poi anche le favole dei fratelli Grimm. È stata una bella avventura, insomma. Lì è stato divertente giocare a fare anche delle voci un po' strane. Ecco, proprio per questo, Claudio, ti volevo dire, tu ormai stai saltando anche tu da una zona all'altra della voce, a proposito di Voice Anatomy, ti stai declinando in tutti i modi. Che differenze trovi fra questo, fra il cinema, il doppiaggio o l'audiolibro? Beh, l'audiolibro, sai... devi essere un po' più neutro, cioè devi comunque capire quello che leggi, ma insomma non puoi andare fino in fondo, no? Nel senso, se dice, se è scritto e a un certo punto lui gridò, esci fuori di qui, non puoi gridare, perché no, certo. No? Uno sta ascoltando, a un certo punto gli parte il... Se sta guidando, rischi. Esatto, non ci... esatto, lo fai andare a sbattere, no? Quindi... come dire, devi dare l'idea, l'impressione, un po' come quando grida Massimo Boldi, sai che fa? Sì. Dio, che dolore! Esatto, un po' così, no, a parte gli scherzi, però come dire, devi dare l'idea, l'impressione che la cosa sta avvenendo, ma comunque sempre lasciare, secondo me, l'immaginazione libera al lettore, che comunque... può, al di là del fatto che tu stai interpretando un testo, avere comunque la sua interpretazione libera di ciò che sta ascoltando, quindi è come dire, come se fosse la sua voce interna, certo. Quasi, no? Devi trasformarti nel suo pensiero. Claudio, ti stiamo per salutare, ma in senso buono, ovviamente, sappiamo che sei anche in giro con il treno. Quando esce l'ultimo film? Bellissimo, ho sentito parlare tantissimo di Gig Robot, lo chiamavano Gig Robot, sì, del bravissimo Mainetti. Devo dire, è fantastico, il film è veramente una bomba, sì. Io non dico mai se... sono entusiasta di questo film. Quando esce questo? Dovrebbe uscire il 18 febbraio o il 25. Bene, avremo modo di sentirci ancora, tanto sì, il regista è un comune amico, oltre ad avere il protagonista come comune amico, c'è anche un bravissimo regista, il bravo Mainetti. Magari ti verremo a trovare in studio. Magari, così vedrai qui che succederà. Caro Claudio, buon viaggio, buon tutto, tutto quello che stai facendo, grazie di questa tua testimonianza. Ciao Claudio. Ciao Flavia, ciao a tutti. Ciao Claudio, grazie mille. Ebbene, hai visto, prima testimonianza, abbiamo una telefonata importante, ma stiamo per andare in pubblicità, se non sbaglio, vero? No. Allora possiamo far passare questa telefonata, che è Graziella da Roma, che è una ragazza o donna, adesso capiremo quanti anni ha, ipovedente che porta una testimonianza. Vi dico, sono molto attenti i nostri radioascoltatori. Un altro sms fra i tanti di complimenti, anche Francesca dice: la tua voce è ottima anche per il pet therapy, il mio cane di nome Pino addirittura sta male ma si rilassa ad ascoltare Voice Anatomy. Beh, mi fa piacere, non so perché lui è un cane, si chiama Pino, c'è qualche attinenza col mio mestiere, speriamo di no. Un altro sms: l'ultimo di Carrere è Il Regno, Limonov è di qualche anno fa, dice Lorenzo. Ma sì, lo sappiamo, è quello che ha letto Claudio Santamaria. È l'ultimo audiolibro che Claudio ha letto. Che mi sono Claudio espressa, ha letto. Mi sono espressa sono male. Sono attentissimi, abbiamo un pubblico altissimo. Bellissimo però, bravi. Non puoi, guarda, io mi stanno educando, io non mi chiamo più Insegno ma imparo durante questa trasmissione. Pronto, Graziella? Pronto, sono qui. Eccoci, Graziella. Allora, ho 81 anni. Quella! Per l'età sono ipovedente. Certo, beh, 81 anni con una voce splendida a proposito di voci. Se dovevo giudicare dalla voce non te ne davo assolutamente. Ci sono tutti invece. Questo chiedo per cortesia. Dimmi, grazie. Ho scoperto quell'aiuto per gli ipovedenti la colonna sul commento sonoro in alcuni programmi. Ma qua adesso che li ho scoperto che proprio ce ne sanno uno ogni morte, no, ogni morte di papà, poverello, no. mai, prima c'era Don Matteo, adesso neanche più quello. Ma non ci sono il commento? A pagina 783 della televideo ci sono enunciati, adesso settimanalmente lo fanno, elencati, già che non è facile per un ipovedente vedere il programma, vabbè. Sono elencati i programmi sottotitolati, sì. Solo per carità, buono, La casa nella prateria, basta. La casa nella prateria, beh, uno degli ultimi successi sceneggiati moderni proprio. Sì, per uno che ha 81 anni, poi, vero? Esatto. Culturalmente, certo, no, per carità, c'è anche Dallas che danno con i sottotitoli. Allora, per favore, perché tante belle voci che ci avete lì sprecate, fate dei bei commenti da audio, dico bene. Sì, quello che noi stiamo cercando di fare anche a teatro, siamo stati con la premiata ditta di uno dei primi proprio ad avventurarci. Nonostante il mio non vedere, io ho un abbonamento da 30 anni al Quirino in terza fila, perché cerco di seguire, voglio seguire, ma quello che io dico, la televisione, non vederla è una cosa... Tremenda. Almeno sentirla, tante volte è meglio anche non sentirla. Comunque, cara Graziella, quello lo faccio da sola quando sì, cambi canale. Ringraziando il cielo riesci ancora a spingere quei pulsanti. Cara Graziella, ti vorrò in braccio a me e mi faccio pubblicità, visto che dal 4 febbraio sarò io in scena al Teatro della Cometa a Roma, a Piazza Venezia, alla traversa di Piazza Venezia. Lì è piccolo il teatro, sono quasi 300 posti, per cui in prima fila praticamente siamo tu sei in braccio a me o io sono in braccio a te. Per cui ti aspetto lì in teatro. Graziella, non per giocare sul tuo nome, ma grazie della tua testimonianza. Ed è vero, questa è una cosa importante, il commento sonoro per i non vedenti e per i non udenti, una pagina scritta bene, eccetera, eccetera. Insomma, questo chiameremo chi di dovere, cercheremo con la nostra redazione di metterci in contatto con chi è il responsabile di tutto questo. Nel frattempo puoi leggerti dei bei audiolibri. Certo. No? Assolutamente. Queste sono le ultime avventure delle audiolibri, sono questi dei nostri tre ospiti di oggi oppure ci sono delle altre cose? Dunque, Claudio con Limonov è uscito da pochissimo, anche il prossimo, degli altri due, uno l'autore, sì, è uscito il suo audiolibro letto da lui all'inizio di dicembre, invece l'attrice faremo una cosa che stiamo ancora leggendo per maggio. Per maggio. Stai molto attenta a non dire i nomi per non rovinare la sorpresa dei nostri ospiti, che sono ospiti veramente importanti, l'avete capito dal primo, da Claudio Santamaria, che è un bravissimo attore, qualcuno dirà dall'altra parte anche bellissimo, ma non voglio sottolineare questo, la trasmissione è molto alta. Non voglio abbassarmi forse perché sono un maschio e vado in puzza, come si dice in Francia. Allora, cara Emmons, donna Emmons, beh, è tanto il tuo impegno perché tu ti metti in sala praticamente tutti i giorni e con grande attenzione, perché non è il doppiaggio di un film che riesci a declinarlo diversamente, sono delle immagini, ci si interrompe, si segue, si sente l'attore in originale. Lì c'è una persona, un microfono, te, il tecnico del suono. Guarda, io sono una donna fortunatissima. Io penso di fare un mestiere che è il più bello del mondo. E poi hai incontrato dei grandi, perché tu hai lavorato con certo, tutti. Certo, ma cioè, il privilegio... De Gregori l'ha incontrato. Ah, meraviglioso, Francesco De Gregori. Cuore sì. di tenebra ha letto Cuore di tenebra voi. E America di Kafka e chissà, magari anche qualche cosa a venire, però non sappiamo ancora. Ho avuto la fortuna di incontrarlo pochissimo tempo fa. Ero molto emozionato perché non ho avuto mai il piacere di... Grande, condividere uno sguardo con il grande Francesco De Gregori. L'ho incontrato nel mio quartiere, perché anche lui è di quella zona, Monteverde, certo. E con grande imbarazzo mi sono avvicinato a lui, ma lui si è alzato, si è tolto il cappello, che qual è il suo, mi ha salutato ringraziandomi del fatto che gli faccio compagnia ogni tanto in qualche film, e io ho detto veramente mi ero avvicinato per abbracciarti e ringraziarti di quanto mi stai accompagnando nella vita con la tua voce meravigliosa. Sarà stato molto, grandissimo. No, appunto, il mio lavoro è un lavoro privilegiato. Io mi siedo nella regia accanto al fonico e ascolto attori e autori meravigliosi che leggono per me in anteprima assoluta, certo. libri meravigliosi. Come avviene questa scelta? Una scelta di mercato oppure una scelta che tu fai con i tuoi ovviamente colleghi? Sì, noi diciamo siamo una casa piccola ma ancora abbastanza democratica, nel senso che le scelte dei lettori avvengono in rumorosissime e proprio vissute in maniera molto appassionata riunioni di redazione. Ma sì, pensiamo un titolo e facciamo una specie di brainstorming e poi escono dei volti. Che bella delle questa nomi, pronuncia. Delle cose non l'avrete mai da me questa pronuncia. Comunque, no, il mio mestiere è meraviglioso. Stare lì, ascoltarvi, ascoltarli, e passo anche ore e ore. Poi, attraverso la lettura che loro fanno a me, che poi andrà a diventare l'audiolibro, io riscopro delle pieghe segrete in ogni singolo testo che affrontiamo insieme. È veramente meraviglioso. È un altro livello. Esatto. Devi essere poi sempre concentrata, perché l'errore, ah, fra certo. te e il tecnico del suono, non potete mai abbassare sì. la guardia, perché può essere sempre dietro l'angolo, l'errore di una T al posto di una D, piccoli certo. errori di pronuncia che assolutamente magari rovinerebbero tutto, perché dopo tante ore che leggi gli occhi si incrociano. No, io diffido di chi non sbaglia mai, però Pino, tutti sbagliano, certo. ed è bello che sia così. Sì, ecco. Ma poi non si rifà, si non mi capita mai a me, comunque non riesco a capire questo tuo discorso, non scherzo ovviamente. Va bene signori, e allora ancora una volta vi saluto per poco, per un minuto e mezzo, rimanete con noi perché ci sono degli altri grandissimi ospiti della nostra Flavia, della Emmons, di questi fantastici audiolibri. A tra poco con Voice Anatomy. Voice Anatomy. Bentornati signori miei a Voice Anatomy. Al mio fianco c'è sempre Flavia Gettili, che Ciao. Ci sta portando per mano attraverso il mondo dell'audiolibro, anche grazie a delle testimonianze molto importanti. Poco fa abbiamo avuto in diretta telefonica Claudio Santamaria, che ha promesso di essere qui vicino a noi proprio anche in occasione del lancio del suo film, visto che anche è una voce importante per quanto riguarda il doppiaggio, visto il grandissimo successo della trilogia di Batman, dove lui doppia benissimo Christian Bale. Però non abbiamo fatto sentire un pezzetto anche di 10 secondi dell'inizio dell'audiolibro di Claudio Santamaria, che si intitola Limonov di Carrère. Prima che Anna Politkovskaja venisse ammazzata sulle scale del palazzo in cui abitava, il 7 ottobre 2006, soltanto chi si interessava da vicino alle guerre cecene conosceva il nome di questa giornalista coraggiosa, dichiarata avversaria della politica di Vladimir Putin. Da un giorno all'altro, il suo volto dall'aria triste e decisa è diventato in Occidente un'icona della libertà d'espressione. A quel tempo, io avevo da poco finito di girare un documentario in una cittadina russa. Andavo spesso in Russia, sicché appena si è diffusa la notizia, una rivista mi ha proposto di prendere il primo volo per Mosca. E questo era Claudio Santamaria che legge Limonov di Carrère. Carrère. Arrivano tanti bei messaggi. Dove li vendono gli audiolibri? Beh, li vendono in tutti i negozi di libri, di dischi, Feltrinelli, piuttosto che sì, Mondadori. Certo. Anche nelle piccole librerie credo sì, che ci siano. Abbiamo... Sono certe volte un po' nascosti, uno deve chiederli, se non entri e dici oh ci sono degli audiolibri qui proprio all'entrata. Insomma, ogni spazio ha il suo costo. L'audiolibro è un mercato di nicchia, per cui certo. non si può spendere troppo in pubblicità. Assolutamente e anche no. come spesa per quanto riguarda i protagonisti. Perché anche dal sito comunque si possono acquistare, dal sito, come il sito? Dillo. www.emonsaudiolibri.it. Come è scritto Emons? scritto Emons, E-M-O-N-S. Non è Amons, no. Eccetera. Emons. Oppure emonsedizioni.it, in entrambi i modi, arrivate a noi. Ma audiolibri con applicazioni mobile o mobile non ne fanno? Non lo so. Sì, no, è possibile. Io sono molto poco tecnologica in me da questo punto di vista, però è possibile assolutamente scaricare gli audiolibri anche con sul cellulare, insomma. So che è possibile. Non scappate dagli audiolibri. Complimenti per questa bella trasmissione intelligente e interessante che rende la mia domenica pomeriggio divertente. Sono appassionato di noir e thriller che oggi vedo in TV su Giallo, Top Crime, eccetera. Perché quelli italiani non doppiati hanno un'edizione qualche volta incomprensibile, infatti ci ringrazia. Sono una assidua lettrice di audiolibri, eccetera, eccetera, eccetera. Auguri ancora, grazie, Graziella Vittoria. Bene, grazie anche a te, anche altri messaggi. Ma abbiamo un altro ospite testimonial dal vivo del grande successo che stanno cominciando ad avere questi audiolibri. Lui è un autore, non è un attore, ma un autore contemporaneo, giovane, giovane, un conduttore anche lui bello radiofonico. Io oggi ho sbagliato proprio, fortunatamente dopo c'è una donna e vado a riprendermi. È laureato in lettere moderne, un copywriter freelance, ha lavorato per diverse agenzie pubblicitarie, ha curato campagne pubblicitarie molto ma molto importanti, e nel 2015 proprio dal romanzo che lui ha scritto viene tratto il film che è Io che amo solo te, che ha avuto anche un discreto successo con Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti per la regia di Marco Punti. Lui è in diretta per noi con voi ed è Luca Bianchini. Ciao Luca. Ciao, buon pomeriggio. Ciao Luca. Eccolo Ciao. Qui. Luca, quanti anni hai? Sei giovane. Ma sono giovane, sta cosa poi fa ridere. Ho una biografia su Wikipedia che mi ha fatto qualche pazzo e sembro Leopardi e dicono delle cose della preistoria. Ne ho 45 ormai, una veneranda età. Sì, sei anzianissimo. La voce dissimula. Esatto. La voce può dissimulare, la voce è magia. La voce è il più grande. Fotografici che usiamo per mettere le foto sui social network. Esatto, che grande invenzione, Luca. È vero o no? Come no? I filtri, sempre. Sempre, hai visto? Adesso abbiamo almeno 15-20 filtri. Io però certe volte sbaglio, mi sono fatto un bianco e nero giallo, sembro un anziano uomo del West. Comunque, vabbè, non sono molto esperto. Luca, questa tua avventura sei un... Da quando è che hai scoperto di essere un bravo romanziere, un bravo scrittore? Ma io ho pubblicato il mio primo libro nel 2003, si chiamava Instant Love, però diciamo che la mia vita è cambiata nel 2013 con Io che amo solo te, perché improvvisamente i miei numeri sono decuplicati, per cui sì, quel libro ha fatto 200.000 copie, poi abbiamo fatto anche il film e anche Dimmi che credi al destino, devo dire che è andato molto bene, ho visto anche le classifiche annuali e sono stato... No, mi promuovo da solo. Sono e questo sarà un film che interpreterò io o doppierò io questo ultimo? Tu farei tutto. Ah, tutto faccio, Luca. Certo, perché essendo ambientata a Londra, ci sarà verosimilmente, se si farà un film, questo non è sicuro, un cast internazionale, quindi ci sarà da recitare e da doppiare, visto che è perfetto. Grande capacità, va bene? Esatto, fisicamente mi faccio doppiare da qualcun altro però, facciamo così. Sarebbe divertente. Facciamo che il fisico ce lo mette qualcun altro. Luca, tu vivi a Torino o sei anche a Roma, insomma, giri un po' dappertutto? Sì, ma di base... Di base sei a Torino. Di base adesso sono a Torino, sono felice di essere tornato a Torino. È bellissimo. In questo momento sono nella mia casa. Bella. Ah, allora sei seduto non come Claudio Santamaria in balia di un treno, anzi che... No, no, sono in piedi, perché al telefono sono sempre in piedi, perché bruci calorie. Luca, personaggio straordinario, ti trovi a passare per Roma fra un po', verrai ospite qui da noi a Voice Anatomy, a Radio 24, ci sarai. Ma figurati, certo, io poi amo la radio e poi l'audiolibro è anche, mi è servito a me innanzitutto per capire che cosa avevo scritto, perché io ho letto il libro scritto da me, certo, che è una sì. cosa strana, no? particolare, e devo dire che io ho una cosa che faccio sempre, leggere ad alta voce tutte le i miei romanzi in generale, perché non ti devi mai vergognare di ciò che hai scritto, e quindi leggere ad alta voce permette a te di essere già il tuo primo giudice, però leggerlo poi e registrarlo con Flavia lì che mi bacchettava, era una grande maestra. Sì. Lei è dolcemente cattiva. Esatto, dato che è ispirato a una storia vera, tra l'altro una donna che lei conosce bene, che si chiama Ornella Tarantola. Ci sono stati dei momenti del libro in cui a me veniva da piangere, a lei veniva da piangere, e l'abbiamo tenuto così nella registrazione perché era proprio il cuore del libro. E ho capito perché questo libro è stato così amato, perché in fondo c'era della verità, oltre a essere... Beh, non mi voglio incensare da solo, però... No, vabbè, ma è giusto, guarda che incensarsi da solo è anche giusto, riconoscere i propri limiti, i propri difetti, essere autoironici, e soprattutto però... essere anche autocomplimentarsi anche con se stessi, se non riesci a fare qualcosa. Beh, neanche io, guarda. Non ho problemi di autostima, però devo dirti che ti adoro. Leggendo quel libro ho capito perché è piaciuto tanto, perché io non lo capivo, no? Diceva, chi può interessare una storia di una libreria che sta per chiudere, di una donna che ha 55 anni e ha un marito che sta morendo in Italia e un vicino di casa che le bussa alla porta, ecco. E invece c'era quel cuore vero, e leggendolo me ne sono proprio accorto che c'è stato un capitolo, ci abbiamo messo un'ora perché piangevamo. È vero. Anche il tecnico. Sì, sì, anche ricordi? Il tecnico, il duro tecnico si è emozionato, e quando il tecnico si emoziona, che è granitico, vuol dire che proprio, insomma, ce l'abbiamo funzionava alla grandissima. Normalmente, cioè, l'autore che legge se stesso non è una cosa facile, perché magari la poesia può essere valorizzata da una grande voce, però c'è anche valorizzata da una grande verità che proprio l'autore stesso ci mette. Facciamo ascoltare i primi 20 secondi dell'audiolibro, no, caro. No, prego, fatelo. No, Luca, o no? Sì, certo. Il titolo, cara. Dimmi che credi al destino, scritto e letto da Luca Bianchini. Dimmi che credi solo al destino. Scritto. Il cielo di Londra sembra fatto per raccontare l'amore. Cambia continuamente, e anche quando ti illude con una giornata piena di azzurro, ecco che qualche nuvola compare all'orizzonte, si mette a correre veloce, e di colpo la luce è buio e la pioggia si mischia alle tue lacrime. Poi per fortuna passa tutto, ma nel momento in cui ti trovi in mezzo alla tempesta, ti dimentichi di com'era prima e di come sarà. Ornella si era innamorata di quel cielo un giorno di molti anni prima. Di tanti anni prima Ornella si era innamorata di quel cielo. Grandissimo Ornella, grandissimo Luca. Luca, quanto ci hai messo a leggere il tuo libro? Luca? Sì, sì, io ci sono. Eh no, non sì, ti sentivo più, perdonami. Quanto ci hai messo a leggere il libro? Quante pagine? Dimmi, ti sento male, sai? Non ti muovere, dove sei in piedi, resta così. Mi sei caduto, Luca, proprio sulla fine. Adesso proveremo con Gaia a ricercare Luca. Se era Santa Maria l'avrebbe ritrovato in un secondo, ci metterà forse qualche secondo in più. Comunque Luca ci ha impiegato 3 giorni e mezzo, comunque, durissimi, piacevolissimo, adorabile, sì. Straordinario, ed è veramente stato molto emozionante quando l'autore ecco legge. Luca. Eccolo. Ecco di Luca, mi è ricaduto seduto dai piedi, sei caduto. Non eri più collegabile da quel... volevo vedere quanto eravate bravi a gestire questi momenti, che io che ho fatto radio li odiavo. Dicevo, ogni volta non vi posso dire cosa dici in quel momento, ma io so cosa avete pensato. Comunque Flavia è brava a parlare. Ci ho messo 2 giorni e mezzo. 2 giorni e mezzo, insomma, che non è poco. La gente dice, ma ci hai messo poco, no? Avevo un pranzo con l'avventura il terzo giorno, per cui ho fatto un po' in fretta. Ah, ti sei sbrigato a leggere il tuo libro? Ma dai, non è vero, lo so, non è anche vero. Perché è il tuo libro, se non dai ma no, valore anche tu. Perché invece Flavia è testimone che finché non ero convinto non si andava avanti. Assolutamente, è così che deve essere, soprattutto quando è l'autore che legge. Luca, ecco. Grande, io ti ringrazio e spero veramente di godermi la tua presenza quanto prima qui a Roma, in un tuo passaggio magari pubblicitario nelle varie librerie, eccetera, avere la possibilità di averti in studio qui vicino a me, che sarà veramente divertente e affascinante. Grazie Luca. Ciao, grazie Luca. Un ciao, abbraccio forte, ciao. Grazie Luca. Altri complimenti. Se sento una voce, c'è qualcuno, Lorenzo, che mi segue di persona quando io dico delle cose sbagliate, per cui è il mio mentore, il mio professore. Potresti evitare di usare il piuttosto che per fare elenchi? È insopportabile, oltre che grammaticalmente abominevole. Benissimo, c'è anche da là una sociolinguista che sarà ospite fra poco, che alzava il dito, il pollice, per dire ha ragione. Bene, ma io sono qui anche per imparare, grazie a questo coraggio che ho di mettermi in gioco di fronte a voi con degli ospiti che comunque riempiono tutte le mie lacune che ho, ma ne ho tantissime, ma le ammetto tutte quante. Resta ancora qui perché avremo un altro collegamento importante con una bravissima attrice. La pronuncia vorrei che fosse quella giusta, quella di Alba Rohrwacher. Alba Rohrwacher. Rohrwacher, con un po' di aspirata. Però lei è nata in Italia, si può dire anche Alba Rohrwacher, e Alba, che è una donna straordinaria, non se la prende. No, beh, è così brava. A tra pochissimo con Voice Anatomy, questa splendida attrice e la nostra amica che ci sta accompagnando in questo mondo della voce. Grazie. Tutti i pomeriggi dalle 16.30 alle 17 su Radio 24 Oscar Giannino vi aspetta con la versione di Oscar. La versione di Oscar in realtà non è il punto di vista di chi vi parla, è soprattutto la serie delle storie strane, singolari, che contraddistinguono la nostra vita di cittadini di fronte a uno Stato che molto spesso ci tratta da sudditi, la storia di come vanno le cose nell'economia e nella finanza italiana, la storia delle tante parti d'Italia in cui questa crisi per anni si faticherà in realtà a farla tornare a dei livelli di reddito, prodotto, investimento necessari davvero a restituirci a quello che eravamo nel 2008. Tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì alle 16.30 alle 17 su Radio 24, la versione di Oscar. Non mancate! Voice Anatomy. Di ritorno a Voice Anatomy dopo una pausa leggermente più lunga. Al mio fianco c'è sempre la cara Flavia che ci sta, eccomi, come ho detto, accompagnando all'interno di quel mondo Emons degli audiolibri, un'altra grandissima protagonista di questi audiolibri, un'altra grandissima protagonista della cinematografia nazionale e internazionale. Presentala tu perché tu hai la pronuncia giusta, anche se lei è nata in Italia, la pronuncia vuole essere italianizzata, vorrei che la presentassi tu. Ladies and gentlemen, Alba Rohrwacher. Ah beh, così ero capace anch'io. Alba, perdonami. Ciao Alba, grandissima. Ha cominciato... Così mai presentata da nessuno, è un onore. Eh beh, Alba però l'ha detto all'inizio in inglese e poi è andato su un italiano commerciale, insomma, sì, nazional popolare, l'avrei fatto anch'io così. Avrei preferito dire Alba Rohrwacher. Eccola lì, di nuovo ripresentata Alba, tu presentata sei, due volte. Tu sei nata a Firenze, però hai un padre comunque tedesco che è nativo di Amburgo, giusto? Giusto. Giusto, che è anche apicoltore, da cui, no? Sì, sì, sì. Sei madre italiana, ti sei formata con il teatro, dove ogni attore dovrebbe muovere i primi passi, e poi ovviamente hai fatto dei corsi all'Accademia dei Vicoli di Firenze, e tua sorella è la regista Alice, che conosciamo perfettamente. Non voglio raccontare di più della tua storia perché vorrei avere la possibilità di averti al mio fianco in de visu e di persona a parlare un po' di te, della voce, di tutto il mondo che riguarda la voce. E da qui parleremo invece della tua ultima fatica. Quando è cominciato il tuo rapporto con questa signorina e con Emons degli audiolibri? L'eleganza del riccio, che non so a quanti anni fa risalga, ti ricordi Flavia? 2009 mi sembra, che sia il 2009. In parallelo all'uscita del film, se non sbaglio. No. Non mi pare, però non so. No, va bene, mi bastano questi tre no tuoi e due di Flavia, sì, per aver detto. Certe volte è meglio stare zitti che dire no, perché anzi delle cose, però sbaglia solo chi non fa. E con l'eleganza del riccio da lì, ma è stata difficile perché magari non ti aspettavi questo impatto. Non è una cosa facile leggere un libro. No, leggerlo non è difficile, ma fare un audiolibro e rendere evidenti e tridimensionali quelle parole non è un'avventura facile. No, però è un'avventura bellissima. Quindi poi è iniziato un rapporto con Flavia e diciamo varie adolescenti della letteratura hanno avuto la mia voce, perché poi in realtà ci dicevamo con Flavia perché dall'eleganza del riccio poi siamo passate ad Anna Frank, poi al buio oltre la siepe, quindi Scout, un'altra ragazzina, e poi ricordami Flavia, e poi ora Jane Eyre. Sì, questo diciamo Jane Eyre è quello che sta per accadere adesso, ma in mezzo c'è stata la signorina Else di Schnitzler, certo, ecco, e quello è stato l'adolescente più complessa di questo gruppo di adolescenti. Sì. Ti manca di fare Lolita, ma non potrai farlo, è stato già letto. Lolita è già stato letto da Marco Baliani. Poi, da un uomo, sì, da un uomo che la racconta, sì, certo. Sì, sì, sì. sì, l'ultima, è un uomo, la voce, l'ultima fatica per cui è questa è Jenner, ma è con Alba adesso. Jenner è un libro incredibile, possente, fortissimo, e non abbiamo ancora terminato la lettura, ma la riprenderemo a breve, per cui penso e spero che l'audiolibro possa uscire a maggio. Ci piace leggere Jenner, vero Alba? Cioè, moltissimo, sì, sì. Poi devo dire, lavorare con Alba è straordinario, perché lei ha una sensibilità incredibile e lei riesce, vabbè, peraltro vabbè, so, anche come molti altri suoi colleghi, però riesce proprio a cogliere delle cose che apparentemente sono invisibili anche sulla pagina scritta, cioè offre delle pieghe di interpretazione al libro, e anche un libro così complesso, poi seppur così famoso come Jenner. Ecco. Ma poi hai chiamato un'attrice con tanto di Empals e di IMPS adesso, abbastanza importante, con dei piccoli premi anche che la stanno accompagnando da tanti anni, come i due Davide di Donatello, il Nastro d'Argento, i Globi d'Oro, i Ciak d'Oro, la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile al Festival di Venezia. Insomma, non è che ti sei accompagnata, ti ho trovato un adolescente per la strada e ho detto: scusa, come ti chiami? Alba, senti, ti andrebbe di leggermi qualcosa? Beh, però diciamo che Flavio ha avuto fiducia in tempi non sospetti. E questa è la parola più bella che un attore può dire, di riconoscimento alle persone che hanno creduto in te. Sì, perché a un certo punto diventa anche facile chiamare una persona quando è consolidata, è giusto anche chiamarla quando è consolidata per dare forza e tridimensionalità. Ma poi uno, secondo me, diciamo, consolidato fino in fondo non lo è mai, quindi... No, in questo mestiere no. Anzi, più agli altri, agli occhi degli altri sembra consolidato, e forse in realtà lo è di meno lui. Insomma, diciamo che con Flavia c'è un rapporto di lettura meraviglioso, dove... io imparo tantissimo, quindi è reciproco. Grazie. Sono belle. La bellezza di lavorare insieme. Eh sì, sono riunioni arcadiche di voce molto interessanti, soprattutto fatte in quella sala molto intima. Sembriamo un po' dei carbonai quando si va all'interno di quella sala, si sta facendo qualcosa di importante, di molto intimo. Infatti è bello, c'ho un'emozione anch'io molto forte, dei bellissimi ricordi. Alba, veramente grazie di questa bellissima testimonianza, del tuo entusiasmo nonostante il tuo percorso molto importante. Mi fa piacere averti conosciuto, almeno soltanto in voce, ma questa è Voice Anatomy, per cui va bene così. Evviva. Grazie Alba, ciao. Ti saluta anche Flavia, che è molto emozionata dai tuoi complimenti. Grazie Alba. Nel frattempo, mentre si sta per chiudere questa avventura Emons con Flavia, ci ha raggiunto, perché sapete che questo è uno studio che offre molte possibilità a proposito di voce, ancora nell'orecchio e nel cuore, una puntata dove abbiamo raccontato poco tempo fa, proprio forse una puntata fa, due fa, ormai perdo il conto, di queste avventure di voce domenicali, dove abbiamo parlato del grande Demetrio Stratos, per cui sono anch'io molto affascinato da questo percorso che questa trasmissione sta avendo, mi sta stupendo giorno dopo giorno, e spero che faccia piacere anche a voi entrare in questo mondo meraviglioso che è quello della voce. E intanto puoi rimanere ovviamente qui al nostro fianco, cara Flavia, grazie della tua presenza, grazie delle testimonianze o testimonial che ci hai portato, degli amici, dei colleghi bravissimi. E dall'altra parte ci ha raggiunto, eccola là, anche lei che ha alzato il dito pollice in senso affermativo al mio modo di utilizzare certe parole. Lei è Vera Gheno, che è nata poi in Ungheria, mezza ungherese e mezza italiana, per cui vale doppio quello che mi hai detto prima. Vorrei che tu mi raccontassi quello che fai in questi due minuti che ci dividono dalla pubblicità, e per quale motivo sei stata invitata in questa trasmissione dai nostri autori, che io ringrazio sempre, Alessia e Damiano, che sono veramente straordinari. È un po' difficile in due minuti. Devo dire, non abbiamo tutto il tempo del mondo, però era prima di andare... Diciamo che io faccio la sociolinguista. Potrebbe essere, che è un lavoro un po' strano, cioè mi occupo di come parlano le persone oggi, soprattutto i gruppi più emarginati, per così dire, all'interno della società. Il cosiddetto slang. Sì, cioè i giovani, come si scrive nel 2.0, quindi sul web, insomma tutte le parti della lingua che di solito sono considerate meno belle, meno importanti. Queste contrazioni. Sì, esatto, tutta quella roba là. Voglio leggervi io che cos'è Vera Gheno. cresciuta ovviamente bilingue italo-ungherese, laureata in sociolinguistica e dottorata presso l'Università di Firenze su argomenti legati alla comunicazione mediata dal computer. Tiene un laboratorio di italiano scritto a Firenze, un laboratorio di informatica alla Stranieri di Siena, insegna sociolinguistica alla Middlebury College, università americana con succursale a Firenze, collabora con l'Accademia della Crusca dal 2000, prima come content manager del sito web e poi membro della redazione della consulenza linguistica e poi dal 2012 anche come Twitter manager del profilo dell'ente. Saltuariamente traduce testi letterali dall'ungherese all'italiano, una figlia di 8 anni, Eva, con la quale coltiva la sua passione principale, cioè il viaggio. Esatto, è tutto vero. Poi sei molto giovane, nonostante la tua voce è un po' da professoressa. Insomma, tanto giovane. Beh, oddio, io mi sento è giovane, Flavia. Sicuramente molto più giovane di me. Vabbè, si può dire. Sì, 40 anni, 40 tu. Una bambina. Sono anziana al mio fianco, non pensavo di averla. Insomma, noi andiamo. Flavia, anche tu sei. Io ho 55 anni, quasi 56, dunque una bambina. Ma guarda come te li porti. Beh, va bene, qui il vero. Due pulzelle. Sì, non parlo di me. Bene, allora adesso stiamo facendo questo passaggio di testimone. Sarà un viaggio molto, molto interessante con Vera. Ringrazio ancora la Emons per dare questa possibilità a noi professionisti di darvi la possibilità di ascoltare alcune pagine di libri che magari non te, avete. Grazie a voi, grazie. Grazie a te, cara Flavia. A tra poco con Voice Anatomy. Voice Anatomy. Ed eccoci, come promesso, tornati qui in diretta dagli studi di Radio 24. State inondando con i vostri SMS la nostra trasmissione in maniera molto intensa e molto interessante, come sempre. Per riprendere, aprire una piccola parentesi ancora sull'audiolibro, c'è Fabiana da Venezia che ci racconta che, a differenza da quelle in Germania, non creano affatto uno spazio degli audiolibri adeguati e interessanti nei loro negozi, non li sanno valorizzare. Inoltre, gli audiolibri possono leggersi facendo jogging, le pulizie di casa, camminando. Un'altra ascoltatrice, un pioniere nello sperimentare nuovi allegati al quotidiano fu La Stampa circa 20 anni fa, sulle 10 uscite in audiocassetta, titoli classici e non, per un'esperienza diversa, nuova grazie a delle voci di bravi attori. Ecco, anche questo può essere un nuovo veicolo, anche se già utilizzato. Ma torniamo alla nostra ospite, che chiuderemo con lei il nostro percorso vocale domenicale, Vera Gheno. Vi ho raccontato poco fa, in maniera molto esaudiente, spero, quello che la nostra amica fa, nonostante la sua giovane età, nonostante lei non sia d'accordo con questo, ed è molto affascinante. Io voglio seguire passo passo le domande che i nostri autori, e Alessia Navarro soprattutto, ha preparato per raccontare questo percorso della voce nel 2.0, come sta cambiando, che cosa sta succedendo alla nostra lingua e a tutte le lingue, poi sta succedendo la stessa cosa. Allora, stavo dicendo prima di parleremo di slang, ovvero del quell'insieme di espressioni e parole gergali usate al posto di quelle della lingua comune in certi ambienti o gruppi sociali. Sì. Vera, come nascono e perché le varie forme di slang manifestano qualche esigenza sociale particolare? Allora, la prima esigenza sociale è sempre quella di differenziarsi dalle generazioni precedenti. Di solito in linguistica si parla di gerghi più che di slang, cioè si definiscono questi tipi di lingua come gerghi e sono i modi di parlare e di scrivere e di comunicare tipici dei gruppi marginali della società. Questi possono essere di due tipi. Quelli tradizionali sono per esempio i gerghi dei ladri, oppure una volta si diceva i gerghi dei saltimbanchi, insomma di questi gruppi un pochino particolari che stanno ai margini della società civile. Sì. L'altro tipo grande di slang, quello importante, è quello dei giovani, cioè il gergo giovanile. Perché i giovani parlano... Che non c'entra niente il dialetto, cioè il dialetto è una cosa, può essere ci si arriva, ci sente preoccupare. Non spoilerare. Ecco. Io sto zitto qui perché come parlo sarò veramente giocato. Un'altra toscana, tuo papà veneto, tua madre ungherese, tu parli toscano. Sì. Dall'altra parte ci ha raggiunto anche Alessandra Monasta, che viene a trovarci ogni tanto, che è una grande criminologa. Lei ci abbiamo avuto ospite, lei è quella delle intercettazioni, eccetera. Anche lì si parla di voce, ma avremo anche ancora modo di parlare con Alessandra, anche lei toscana. Bene. Sì, io sono di adozione toscana. Mia madre è nata in Toscana, per cui siamo un po' circondati. Facciamo conca. Sì. Scusa comunque, se ti ho interrotto. No, non c'è nessun problema. Comunque, la caratteristica principale del gergo giovanile è quella di voler dar fastidio alle generazioni precedenti. Quindi io spesso parlo in posti dove ci sono persone di una certa età, diciamo anziani, così, e una delle domande che mi fanno sempre è: ma questi giovani, ma come parlano? Ma si può, non si può sentire, non si può vedere, non si può sentire. E la risposta ovviamente è sempre la stessa: veramente anche voi da giovani parlavate così, è che l'avete dimenticato. Cioè è normale, cioè, tutti noi in una fase della nostra vita abbiamo un disperato bisogno di allontanarci dalla strada indicata dalle generazioni prima di noi, e quindi cercheremo di parlare in una maniera in cui loro non capiscono. Non so tu come a un certo punto, quando eri adolescente, come chiamavi i tuoi genitori. Sicuramente non dicevi i miei genitori. No, mio padre e mia madre. Sì, però per esempio, non lo so, ai miei tempi si diceva i vecchi, oppure i dinosauri, i sapiens. I sapiens, parlano degli anni Ottanta. No, io negli anni Ottanta avevo già un inizio di prostatite, per cui ero già grande. Noi negli anni, io sono nato nel 59, per cui diciamo gli anni 60... ancora forse era papà e mamma, o mio padre e mia madre, visto che sono di Roma. Qualcuno mi dice, oggi mi correggono sempre questa trasmissione, ma sono molto felice. Quando tu dici carbonai, si dice carbonari, Pino, scusami. Va bene. Sì. Orlando da San Paolo, grazie. Hai tanti ascoltatori grammarnazzi che ti seguono proprio con attenzione. Come hai detto? I grammarnazzi, no? Cioè, quelli... grammarnazzi? I grammarnazzi, cioè? Sì, in rete, sì. E quelli che correggono sempre, mettono i puntini su lei, i puntigliosi. Ah, si chiamano così? Sì, i grammarnazzi. No, per imparare. Ecco. Questi ultimi 2-3 blocchi insieme sono qui per imparare da te e dai nostri amici tramite. Ti insegno tutto il gergo, se vuoi. Vai. Ecco. Anzi, è questo di cui dobbiamo parlare insieme. Per cui, ecco, la cosa importante è che uno si distacca dai grandi. Cioè, il succo è non farsi capire. Parlare in un modo in cui tu capisci, tu crei un collegamento con i tuoi simili, che possono essere quelli del tuo gruppo sociale, del tuo, i ragazzi del muretto, no? Per così dire, alla fine la storia è sempre la stessa, si ripete, i ragazzi della via Pal, cioè siamo sempre là, e non farsi capire dagli altri. E quindi tu attraverso la lingua crei comunanza e lontananza da quelli che non fanno parte del tuo gruppo. E quindi tutti i gruppi giovanili, tutti i sottogruppi, le sottoculture, il singolo gruppetto ha un suo linguaggio, un suo gergo particolare. Che adesso si accomuna un po' anche al gergo, allo slang straniero, cioè delle contrazioni straniere. Certo. Adesso ho sentito alcuni ragazzi adolescenti dire bella bro. Bella bro, certo. Bella bro, brother. Fratello. Da brother, da fratello. Dopo fra c'è bro. Esatto, adesso c'è questo bro. Sì. Insomma, possiamo affermare nel caso della creazione di nuove forme gergali che la voce parlata ha un potere determinante sulla voce scritta? Certo che sì. Sì, il gergo nasce prevalentemente come orale, quindi nasce nel parlato. Quello che vediamo oggi, sto gergo scritto, che è tipico soprattutto dei social network, quindi tutti i mezzi scritti che però in qualche modo simulano il parlato, è solo una conseguenza. Cioè queste sono forme di comunicazione che sono prevalenti nel parlato e solo poi diventano casomai scritte. Ma tutto questo anche grazie o non grazie all'evoluzione che hanno avuto i media in questi ultimi anni. Certo. Cioè queste contrazioni, questo fatto di raccontare qualcosa soltanto in 105 e 115 parole piuttosto che lettere, piuttosto che... piuttosto che non si dice, perché è meglio non di... così, non così. Questa io volevo salutare perché è l'ultima puntata di Voice Anatomy, perché il direttore generale sicuramente prenderà seri provvedimenti e metterà un giornalista vero. No, dai, ti prego. No, non ti preoccupare, non succederà, mi legherò alla sedia. Qui nasce anche da questa esigenza nuova di interfacciarsi. Sì, allora guarda, la cosa bella è che non è così nuova. Cioè io è quasi 20 anni che studio questo ambito della lingua. Tu l'hai preso quindi... proprio nella nascita. Sì, la lingua sicuramente nasce negli albori. No, ma io dicevo questo proprio... modo nuovo. Sì, questo del social networking. Cioè io ho iniziato, sono andata in rete nel 96, quindi... Sei stato un pioniere. Perché c'era primi, tutto, sì, però... Sì, c'erano le BBS, c'erano i newsgroup, i gruppi di discussione, e già lì c'erano queste forme, stavano arrivando queste forme. Da una parte quello che dici tu, le contrazioni, quindi insomma le sigle inglesi tipo OMG, oh my god, no? O THX, thanks, e queste cose così. per citare quelle citabili in radio. No, perché poi chiaramente anche qualcos'altro, sono delle contrazioni anche come parolacce. Quello WTF, no? WTF, che è what the fuck, cioè famoso. Sì, tanto non, noi possiamo dirlo. Ah, ok, va bene. Da noi passano serenamente anche nelle canzoni americane, nei rap. Allora, il fuck perfetto, ormai. Okay. Da noi è cambiato anche il modo di tradurre nel doppiaggio. Per esempio, il fuck è diventato fottiti piuttosto che fanculo. Non va a fa, ma il finale è cambiato. Sì. Il modo anche di recitare alla fine degli anni 70 e negli anni 80. Sì, sì. Anche... Infatti è buffo che tu citi fottuto, che in italiano prima del doppiaggio non esisteva. No, cioè infatti... non è italiano in realtà. No, non è assolutamente italiano, ma stava bene in quel fac. Sì, esatto. E eccetera. Sì, infatti cammina parallelo proprio il linguaggio, c'è un'evoluzione. Noi facciamo anche alcuni incontri nelle università proprio per cercare di capire questa evoluzione del linguaggio all'interno poi del cinema, che è quello che... Tante volte dicono il cinema imita la vita, no? È la vita che poi va a finire che imita il cinema. Sì, c'è un... come si dice? Ci sono... Un'interconnessione. Sì, c'è interconnessione fra i media e la vita reale. Ci sono influenze in entrambi, da entrambe le parti. Infatti, diciamo, mi fa piacere che tu sottolinei questa parola. C'è stato anche un passaggio importante che magari si è notato di meno con il doppiaggio di La febbre del sabato sera e Grease, soprattutto La febbre del sabato sera, dove un grandissimo Flavio Bucci, non abituato al doppiaggio ma è stato straordinario, ci fu la prima volta che si utilizzava questa esclamazione Gesù, cosa non nostra, perché non è né una bestemmia né un'evocazione o né un'invocazione, è proprio Christ, Jesus Christ, eccetera. Non c'era proprio, ed è nata anche lì questo tipo di... Sì, c'è un lungo elenco, i linguisti si sono occupati ampiamente di questa cosa, sì, dei cosiddetti plastismi del doppiaggio, cioè di queste cose, di queste formule che non erano tipiche dell'italiano e sono entrate col doppiaggio, soprattutto dall'inglese, chiaramente. Sì, è bello questo discorso osmotico fra i vari elementi, queste declinazioni. Tua figlia come si comporta in tutto questo? Sei molto attenta come madre oppure la lasci fare e distaccarsi dal tuo tipo di linguaggio? È una povera è una cavia, poverina. Ah, tu la studi? Sì. Lei sì, viene un pochino sì. Cioè la lasci fare? Falsamente libera. No, dai, prova a lasciarla libera. Non sono particolarmente... Le posso correggere un congiuntivo, ma a quell'età i bambini sono in realtà molto bravi, sono delle spugne. Poi sono otto anni, sì, però sono già... Sì, sono autonomi, hanno un pensiero molto autonomo e quindi se tu glielo fai notare una volta è difficile che lo risbaglino. Però poi... magari di nascosto lo usa. No, ma non credo, no. I bambini casomai fanno altri tipi di errori, non lo so. Per esempio hanno dei problemi con i verbi irregolari e quindi... Ce l'abbiamo anche noi. Non tu, parlo di noi me. Mi do del noi in questo okay, momento. Vabbè, mi sto dando plurale del... maiestate. Sì, sì, okay, perdonami, era un noi che significa me e Valerio, il nostro tecnico del suono, che anche lui alza un braccio e dice anch'io ho questi problemi. Però questo discorso è veramente affascinante, è un altro tipo di declinazione della voce. Resta qui con noi ci salutiamo per pochissimo, lo sapete, poi ancora due blocchi insieme prima di dare la parola allo sport. A tra pochissimo con Voice Anatomy. Voice Anatomy. Sto sorridendo perché nel frattempo, quando ci sono questi momenti, leggo alcuni SMS, grazie a Silvio da Torino che fa dei complimenti, e un'altra invece per la nostra amica Vera, è super, super entusiasta e sicura di sé, mi piace molto. Oh, bello. Accidenti, sì, grazie. Normalmente uno c'ha sempre delle paure, troppo sicura di sé, eccetera. Uno invece, ma se, insomma, un vero leader deve essere sicuro di sé, lei è il leader per quanto riguarda la socio linguistica. Mi piacerebbe, no? Insomma. Vabbè, ma è bello perché sai quello che stai dicendo, sei insomma. Visto che sono oltre 20 anni che stai sul pezzo, come diciamo noi giovani, sì, come diciamo noi giovani, per cui, eccetera, eccetera. Altri complimenti, eccetera. Uno sei talmente chiacchierone, state calmo. Uno, vabbè, starò un po' più calmo. Grazie dei vostri consigli, sia positivi che ovviamente quelli che fanno crescere. Senti, carissima Vera, ci sono delle forme di slang che ormai sono entrate di diritto nel linguaggio comune oppure no? Ma allora dipende. Allora, è difficile inchiodarle sul vetrino per analizzarle, perché è un ambito, io mi occupo di ambiti della lingua che si muovono molto molto velocemente, quindi per esempio quando io pubblico uno studio, un saggio, no, di solito c'è un tempo, non lo so, di 6 mesi, un anno, fra un convegno e gli atti, e quando esce è già vecchio perché è obsoleto per forza di cose, e, perché le generazioni cambiano in fretta, Proprio i modi di dire, cioè quello che sono come i meme su internet, no, cioè un giorno tutti condividono una cosa, non so, sotto Natale se hai visto il meme di John Travolta, no, in Pulp Fiction, vabbè, comunque era una gif animata che tutti condividevano, e dopo 2 giorni era già considerata vecchia e quindi già non piaceva più. Con la lingua succede un po' uguale, quello che spesso decreta il successo di un modo di dire gergale è se dietro c'è un personaggio che piace, un tormentone cinematografico, televisivo, sì, anche, ma anche proprio un personaggio che lo usa, quindi per esempio la mia generazione ha avuto molte influenze dai personaggi di Guzzanti, sì, non so, il Buso di Vulvia o non lo so, queste cose così, no, sì, tutti, Rocco Smitherson e così via. Quindi il romanesco, per esempio, come elemento costante della gergalità giovanile, tipo daje, no? Ieri sono stata in un negozio. È vero, daje adesso, ecco, cioè, ieri sono stata in un negozio e mi sono comprata la maglietta daje perché mi sembrava il minimo. È un'esortazione, insomma. Daje. Questo l'ho trovato anch'io in vari messaggi di amici e colleghi, anche ragazzi, sì, si è uniformata, sì, moltissimo, sì, questo daje. Sì, sì. Ed ha travalicato i confini. E non è solo romano, cioè, esatto. Non è più romana, è un po' pan italiana. Ci sentiamo domani? Daje. Daje. Oppure, esatto. Oh, sta andando, come sta andando? Sta bene, io sto cominciando a scrivere, tu e io pure sto crescendo, daje. Daje. È una contrazione, vuol dire dai, stiamo andando nella direzione, sì, giusta, sì, oppure sì, va, sì, bene così. Esatto, ma poi altri, cioè poi il romanesco per esempio ha tantissima presa, ancora adesso, perché ci sono anche personaggi in televisione così che lo usano, mm-hmm, e lo fanno diventare simpatico, è uno dei dialetti simpatici, no? Sì, che poi, quindi, si capisce, insomma, è uno, esatto, dei pochi dialetti che, esatto, è comprensibile. A voglia, no? Queste cose così. A voglia. A voglia. È più leggera, esatto. A voglia, sì, la mia roba, incartata. T'ho corretto, e vai. Sarà basta, l'unica, me ne vado. Sarà l'unica volta. L'unica volta, perché la mia lingua. Ma io sono emozionata, non è giusto. No, ma no, ci mancherebbe altro. Ci sono altri esempi che ti vengono in mente di passaggio di testimone gergale in questi ultimi periodi? Qual è la cosa che funziona di più in questo momento? Se ne sono tante. Tante, sì. Non saprei dirne una. Guarda, poi ovviamente in questo momento ho un vuoto di memoria, ma poi mi verrà ti in verrà mente in corso di trasmissione. Tanto... Sì. Stavo pensando ai personaggi che piacciono adesso ai giovani. Non saprei, forse... Non lo so, ecco, il romanesco di Chef Rubio, per esempio, ha tantissima presa. Di Chef Rubio, e quindi tutto quello che lui dice, tutti i modi di dire, spesso vengono ripresi. Io me li ritrovo spesso anche su Facebook, nello scritto, no? E quando passano nello scritto fanno una certa impressione. Le cose che non mi piacciono troppo sono quelle contrazioni sugli SMS, quelle TVB, queste... Ma sono storiche, TVB, sì, era... Sì, vecchio, certo, sì, no, ma... Cioè, è più vecchio di noi, dai! È vero, però io, sai, sono rimasto ancora come tanti altri alla scrittura di una lettera con tanto di penna, con tanto di francobollo, l'attesa, sono un po' antico in questo, sono un però po' romantico, sai, sai Pino, quelle sono le contrazioni, si chiamano tachigrafie, cioè scritture veloci, sono figlie di un periodo tecnologico ben preciso, che sì, è quello in cui gli SMS costavano una cifra, va bene? Sì. In cui per connetterti a internet pagavi una tariffa urbana a tempo e ogni bit erano soldi. E oh, quindi aveva senso CMQ per comunque o NN per non. E questa cosa un po' negli SMS è rimasta, che sono un po' l'unica, certo, forma in cui... Cioè, per esempio, su WhatsApp non ci sarebbe bisogno di contrarre. No, perché... Però vuoi essere veloce, vuoi scrivere il più velocemente possibile, ecco, no? Perché chiamiamo degli ospiti come te, perché raccontano la storia di quello che noi magari diamo per consolidato, ma non sappiamo per quale motivo, sì, si dice in quella maniera, per quale motivo nasce. Ecco, un'analisi semplice, se vuoi, dopo è come far vedere un trucco di un mago, dopo, ah, beh, allora... certo. Certo. Però all'inizio rimani a bocca aperta. Ed è questa la spiegazione che hai dato tu, certo, è un'analisi, cioè, che magari non ha mai fatto, almeno io non l'avevo mai fatto, certo, il costo della tariffa urbana. La tariffa urbana a tempo, la tutta, di per una cui, volta. Esatto, tutti i rumorini del modem, sì sì, io sono partita col 9006, quindi col primo modem, ora a confronto va, beh, di lusso. Adesso insomma, clicchi adesso... e t'arrabbi se non, sì, subito, sì, non ti appare quello, esatto, che hai richiesto. Esatto. No, la velocità adesso. Non era impensabile, poi non so se questa ha chiuso un po' la fantasia oppure ne ha aperto un'altra, più digitale, meno analogica. sono un po' più analogico da questo punto di vista, che devo riutilizzare per forza questa parola. Sono forse rimasto un po' attaccato ai vecchi sistemi di come si copiava una volta anche a scuola. Quello sì. Adesso sì, se riesci... Ci sono altri problemi adesso. Adesso sono gli altri problemi. Sì, sì. I nostri autori, soprattutto Alessia, mi indica sempre le domande che sono molto importanti da fare. L'interrogazione. Oh, guarda, no, ma poi sono domande interessanti. C'è un rapporto tra oralità e il linguaggio dei nuovi media? Certo che sì. Certo. Sì, sì. Allora, per tanti anni i linguisti hanno cercato di dare un nome a questo nuovo tipo di scrittura, e quindi l'hanno chiamata parlato scritto, italiano inviato, creulo, orale scritto, tutta una serie di nomi. Cioè, e tutto girava intorno al far capire che... Sincretico anche. Sì, ma appunto che era un... Beh, però devi sottolinearla sta parola bella che ho detto. Sincretico. Vabbè, sincretico è bello. Diciamolo così. Il sincretismo. Il sincretismo. No, ma grazie appunto... Alessia che me l'ha passata nell'interfono. Non amo... È suggeritore. No, ma sì, non amo prendermi dei meriti che non sono miei. No, assolutamente. Comunque sì, perché... La cosa interessante era avere dei media in cui si poteva scrivere in maniera informale, che non è una cosa così banale. Tu quando eri ragazzino dove scrivevi? Cioè io questo lo dico sempre ai miei studenti. Sul quaderno, ok, si facevano i temi. Sì. E poi se eri uno che aveva delle velleità scrittorie, forse avevi un diario, sì, forse scrivevi come tutti i ragazzini sui muri, le porte dei bagni. Quelli della mia generazione sono quelli dell'Uniposca. E quindi l'Uniposca, ti ricordi il pennarellone il con pinnare l'Uniposca, come no? Ecco, certo. E quindi parabrezza. Parabrezza si dice. Parabrezza. No, purtroppo è parabrezza. Poverino, dai. È terribile, io non lo dirò mai in un film. Non ce la posso fare. No, neanche io, non posso dire. No, parabrezza o zingaro, non posso dirlo. Zucchero, quello sì, zucchero va bene. Riso, ma quello è già... Ma è un'altra storia. Un'altra storia ancora, ecco. No, io non l'ho mai scritto sui bagni, ma ho sempre letto le autostrade, raccontavano una storia nei bagni. Esatto, però avevamo poche superfici non formali su cui scrivere. Poi si è aperta internet e finalmente insomma ed è cambiato qualcosa, perché ci sono tutti questi ambienti virtuali in cui noi scriviamo, ma di fatto scriviamo come se parlassimo, quindi è una lingua destrutturata, molto vicina all'oralità, molto veloce, frasi brevi, nessuno fa discorsi con 27 dipendenti, no? Certo. Frasi dipendenti, cioè sono tutte frasi molto brevi, eccetera, eccetera, e il lessico di conseguenza, cioè il lessico che si usa online è spesso il lessico del parlato, non dello scritto. Questa cosa, ma questo modo di scrivere proprio sui social, sì, mi porta proprio a fare questa considerazione, questo 2.0, chiamiamolo, sì, così, con tutte le sue contrazioni, emoticons, queste cose, non rischia proprio di levare proprio l'espressività di una lingua, di creare un'involuzione, se vuoi, nell'apprendimento di un giovane così come quello di una persona adulta? Cioè, questa è una domanda da 100 milioni di dollari. Vabbè, abbiamo chiamato una, ho letto il curriculum, ho letto il tuo curriculum, io posso fare solo questa domanda e forse capire la tua risposta, ma sono sicuro che i nostri radioascoltatori saranno più in grado di me di apprendere il tuo percorso. Premesso che in una lingua si possono sempre aggiungere cose senza perderne altre, e quindi il fatto che si aprano nuovi settori nella comunicazione vuol dire anzi che l'italiano sta bene, è una lingua che si adatta ai nuovi contesti e così via, e quindi questo è un discorso positivo. Ecco, dall'altra parte c'è sicuramente in corso un cambiamento proprio cognitivo. Faccio sempre questo esempio. Se tu vuoi sapere come si chiama il grosso camion che trasporta le automobili, uh-huh, e non hai internet, come fai? O vai su vai a chiedere a una persona, a un camionista, non lo so, a un autogrill, scusi, come si chiama il camion che trasporta le macchine? Vai da qualcuno di più saggio di te, no? Sì. In quel settore. Se no è difficile, perché in un vocabolario non puoi fare la ricerca inversa, no? Certo. Non è che lo leggi tutto. Oggi abbiamo internet e quindi lo googliamo, no? Lo scriviamo. È una frase di riferimento e lui ti risponde. E scopriamo subito che si chiama bisarca, no? Grosso camion che trasporta automobili si chiama bisarca. Questo ha cambiato il modo di conoscere la realtà. Cioè noi abbiamo un nostro piccolo cervello e poi è come se avessimo un grosso cervello esterno che è sempre lì a disposizione, e quando noi abbiamo bisogno andiamo a pescare. Cioè abbiamo un cervello in outsourcing praticamente. È un pochino, sì, un mega cervello in outsourcing, esatto. Cosa questo stia provocando a noi, cioè come sì, a livello cognitivo, è ancora tutto da scoprire. perché in realtà noi possiamo avere il lusso, possiamo permetterci il lusso di dimenticare un sacco di cose perché tanto le ripeschiamo dalla rete. È quello, per questo certo. Quella domanda mi fa un po' paura, mi entusiasma questa globalizzazione, questo modo... fa perdere un po' di fascino. Qualcuno scrive: Pino, io ancora mando cartoline, è magnifico scriverle e riceverle, non è questione di essere vecchi romantici, è questione di pazienza ed attesa. Pino e Vera, quando parlano sorridono, si percepisce la loro felicità. Grandissima Vera contro l'uso invertito del piuttosto che infesta ormai tutti i media. Giovanni, Vera, un'ottima dialettica, che bello, si sente che ha letto molto. Dimmi non lo dice, qui hai visto, non è, cioè, Pino e Vera si sente che hanno un'ottima dialettica. Pino e Vera, qui lo dice, verbi, l'imperfetto anziché il congiuntivo o condizionale, mi, ci, ti, eccetera, quando non è riflessivo. Ma pazienza, grazie, buon lavoro. Ah, vabbè, no, ma sono cose dell'italiano informale, parlato, non sono, tipo, volevo un chilo di prosciutto, l'imperfetto di cortesia, è proprio codificato, invece di vorrei, si può dire, dai. Cioè, l'importante è sempre distinguere fra livelli d'uso. Quindi se io parlo, sono in negozio, lo posso dire, se dovessi scriverlo in un curriculum, no. Ovviamente è meglio di no. Ecco, vedete quanto è bello quando uno ha già la risposta pronta. Io avrei saltato l'SMS. I giovani d'oggi parlano strano, mi facevano ridere nucleo e capsula quando facevano i due con lo slang di allora e con movimenti correlati. Esatto, sì. È già cosa anche quello, preistoria ormai. Tanti messaggi sto cercando. L'orrendo bella spopola tra i giovani. Ma non è orrendo, no. Bisogna essere aperti, bisogna... Poi queste mode, come arrivano, spesso se ne vanno. Quindi... Bisogna avere solo pazienza. Sì, bisogna solo avere pazienza. Infatti bisogna vedere chi è che scrive queste cose. Sono degli analogici come me o sono dei digitali che si accontentano di questo cervello in outsourcing? Io ho un po' paura di questo cervello in outsourcing, perché dico, beh, tanto c'è Google, tanto c'è qualcuno che mi aiuta. E poi se arriva la fiammata solare e ci spegne internet... Hai capito? Lo so. Per cui io credo che la cultura sia anche da innaffiare, ma io credo che la maggior parte dei ragazzi lo facciano, lo fanno... Dipende. Si accontentano, diciamo, molto. È difficile trovare ragazzi che leggono, per esempio. Io chiedo sempre ai miei studenti, faccio sempre la domanda a bruciapelo, ma qual è il tuo libro preferito? E spesso molti ragazzi non mi sanno rispondere. Dicono Dylan Dog, magari. Ma magari. Che è un bellissimo fumetto. Magari mi dicono bellissimo. I Promessi Sposi, ma perché lo stanno rileggendo per l'ennesima volta all'università. Ci saranno sposati sti due. Ecco. Eppure questo è una cosa da analizzare bene. Io non vedo l'ora di parlare di scuola, di voce degli insegnanti, non vedo l'ora, perché tante volte veramente chi ti fa amare qualcosa è il tuo insegnante, il tuo vecchio saggio. Ho avuto un paio di maestri indimenticabili. Sono quelli. E non c'è bisogno di avere sempre una bella voce, bisogna avere delle belle intenzioni, quelle intenzioni che ti fanno entusiasmare. Cioè, una persona come te, solare, divertente, come lo dicono anche soltanto ascoltando la tua voce, è piacevole essere ripresi da una voce così, da una spiegazione logica e soprattutto non chiusa come la tua. Importante, no? Nell'ambito culturale la non chiusura direi che è il requisito fondamentale, no? Qui qualcuno mi chiede: sincretico cosa vuol dire? Te lo dico immediatamente ti vado a spiegare la parola sincretico. È la fusione tra un elemento che appartiene direttamente a un popolo e quello di un'altra popolazione, di un'altra etnia. Può essere il linguaggio messo insieme, può essere... E quindi è un elemento nuovo, insomma. Ecco, questo è più o meno... Si è capito? Non ho capito, scusa Alessia, mi stai suggerendo, ma stai correndo... È utilizzato per lo più per quanto riguarda le religioni. Frutto di due influenze religiose diverse. Ecco, voi non sentivate la voce che io avevo nell'orecchio, io ho cercato, visto la mia grande professionalità come doppiatore, di andare più o meno a sync col suggerimento, con un ritardo di soli 3 o 4 fotogrammi. Sono stato bravissimo, vero? Bene, spero di essere stato chiaro, spero che Alessia Navarro sia stata soprattutto chiara. Allora, resta ancora con noi, quando dobbiamo chiudere questo blocco? Ok, allora ci siamo, c'è rimasto l'ultimo blocco insieme, poi passeremo anche la linea ai nostri amici dello sport, che è un po' di tempo che non li sento, visto che io ho passato un sabato sereno, sono molto tranquillo nell'ascoltarli. Va bene, Vera, resta qui, stay there, bella sis. Si può dire bella sis? Sì, diciamo noi, dai, bella sis. Bella sis, resta qua. Ci vediamo tra poco. Ci sentiamo tra poco. Voice Anatomy. Devo dire, signori, intanto bentornati sempre a Voice Anatomy in diretta con voi, 16:46 e 58 secondi, che questa avventura con la nostra amica Vera attraverso il mondo dello slang, di questo cambiamento quotidiano di comunicazione sia verbale che non verbale, anche con i disegnini, sta affascinando il nostro mondo del web. Perché, a parte credo questa sia ironica, parli benissimo, si sente che hai letto una biblioteca. Bene, credo. Quando esce la maglietta a ridaglie, ma compro. Ecco. Non è vero che scriviamo come se parlassimo. La gente è codarda, vile e vigliacca. Infatti non ha il coraggio di dirti in faccia ciò che pensa, ma su internet sì. E poi sì, e tu dicevi durante la pubblicità che è uno dei mali della comunicazione immediata, perché siamo dietro uno schermo e quindi pensiamo, cioè un po' di magari in faccia alla persona che vuoi insultare certe cose non gliele diresti, ma dietro uno schermo ti senti sicuro. Però adesso ecco, questa libertà, adesso non è questa la trasmissione che vuole analizzare il web 2.0, ma il modo di parlare casomai sul web 2.0, che adesso ognuno si sveglia la mattina e crea una pagina contro o a favore e decide di, senza nessun tipo di preparazione, sì, di attaccare piuttosto che esaltare quella persona. Sì, sì, è vero. E, questo insomma, è uno dei rischi della comunicazione mediatica. Quello un po' mi dispiace. Questo di Enrico da Boscorale: Nicoletti ha creato il neologismo intimidazione per rapporto sessuale. Non lo so, devo chiederlo a Nicoletti, questo neologismo mi sfugge. E va bene, insomma, eccoci qua. Ah, aspetta, ciao Pino, chiederesti a Vera l'uso del piuttosto che seguito dal punto fermo? Valentina e Michele. Sì, l'ho sentito molto. Valentina e Michele, ciao, ho capito chi sono. Ah, ma c'è un pubblico che ti ama. È Valentina che si preoccupa del fidanzato Michele, che dice sempre piuttosto che e poi chiude. Deve essere una cosa milanese. Ah, voglio andare al cinema piuttosto che. Ecco, no, cioè, piuttosto che punto. Sì. Piuttosto che a fine frase, sì. Valentina è sbagliato, diglielo a Michele che è sbagliato. Sì. E lo diciamo anche qui in diretta radiofonica. Digli a Michele di chiamarmi, che parliamo la stessa lingua che lui. Lui chiude così. Sì. Tu hai un tuo sito a questo punto, tu le ti seguono come... Io sono su lavorandoci sono su qualsiasi social network esistente, quindi basta googlarmi come Agramigna, sono da tutte le parti. Bene, senti, qui mi dice ancora, per l'Accademia della Crusca, cosa molto affascinante il fatto dell'Accademia, che cos'è l'Accademia della Crusca? Dirlo per chi l'Accademia della Crusca qui lo sanno è... tutti, però è giusto fare finta di niente ogni tanto. È l'ente di natura linguistica più antico d'Italia, è stata fondata nel 1583 e oggi ci occupiamo di studiare la lingua italiana, di come cambia. È la depositaria della lingua italiana. Sì, diciamo, ci stiamo a provare. No, ci stiamo a provare. Bro. Tu ti occupi di consulenza linguistica. Sì. E poi una consulenza proprio a passo coi tempi. Come social media manager rispondi a tantissime domande degli utenti sulla lingua italiana. È una bella responsabilità questa. Sì, allora la consulenza linguistica è molto organizzata, quindi ci controlliamo a vicenda, insomma siamo tanti a fare la consulenza linguistica. Più che social media manager io sono la Twitter manager, perché Facebook è curato da una persona molto più paziente di me che si chiama Stefania Iannizzotto, perché io avrei già fatto chiudere tutto. Ecco. Sì, è una bella responsabilità, però tutti coloro che lavorano alla Crusca lo fanno con grande amore per la lingua e grande amore per quello che fanno, e quindi credo che questo si senta anche dall'entusiasmo che ci mettiamo tutti quanti. Eh no, si sente dal tuo soprattutto. Mm. Senti, quest'ultima domanda prima di poi di collegarmi con i nostri amici dello sport e andare un po' sui miei amici, devo parlare semplice con loro perché non mi capiscono altrimenti, lo so, quello è purtroppo, devo razionalizzare tutti i miei vocaboli. Cosa sono gli epic fail comunicativi? Facci qualche esempio. Allora, qualche esempio. Sono fallimenti epici proprio. Sì, ma allora ne faccio uno nostro personale. Era proprio agli esordi della Crusca su Twitter, 2012, avevamo pochissimi iscritti, forse 400, oggi ne abbiamo 36.200 su Twitter e più di 200.000 su Facebook. Mia figlia mi ha preso l'iPad e si è messa a giocare a Fruit Ninja. Dopodiché ha twittato il risultato di Fruit Ninja col profilo della Crusca ed è venuto fuori il tweet: Accademia Crusca ha affettato 79 frutti a Fruit Ninja. Questo un'utente femmina se n'è accorta subito e ci ha twittato simpaticamente: ah, Dalla Crusca, mi aspettavo che giocaste tutti a Rasol. Questo è stato questo è un fallimento epico. Poteva esserlo, poi abbiamo risolto, insomma, così minimi, dicendo a volte succede che gli iPad finiscano nelle mani sbagliate, però poteva essere un epic fail. Lo ricordiamo con affetto. Tu devi dire, tua madre è stata cacciata via dall'Accademia della Crusca per non aver fatto il record, non per altro. Esatto. Solo 79, no, non si fa. Cara Vera, io ti ringrazio, resta qui al mio fianco, grazie di questo percorso insieme a te. Sulla nostra lingua, sulla nostra voce. Questa era più Wright Academy Anatomy, Wright Anatomy che Voice Anatomy, ma la voce parlata e anche quella scritta ormai si somigliano tantissimo. Vera, grazie davvero, continua a seguirmi e soprattutto a mandarmi degli sms dove io magari trovi qualche errore, piuttosto che punto. Ecco, ovvia. Punto. Va bene. Grazie Vera. Grazie a tutti. A Vera, sì, a Vera. resta qui, scusate, amici miei dello sport, dove siete? Chi c'è? Eccomi, amico mio, quello che ti dà le buone notizie sempre. No, ma ormai la bella notizia è già arrivata ieri. Esatto, quindi oggi c'è poco da darti cattive notizie. Non so gli altri risultati, non li so, a parte l'Inter beffata al 94esimo. Sì, Inter beffata da Sassuolo, gol di Berardi su calcio di rigore, che in concreto significa che c'è stato un ribaltone in testa alla classifica. E questa era una domenica particolare, è ancora una domenica particolare perché non tutte le partite sono finite, perché è la domenica che assegna il titolo di campione d'inverno, che come saprai, per parlare semplice, nel 69% dei casi corrisponde allo scudetto a fine stagione. 69%? Sì, ma la percentuale sale al 100% nei campionati a 20 squadre con i tre punti ed è intorno all'80% da quando insomma sono stati introdotti i tre punti per vittoria. No, questo per dire che stai parlando bene, perché c'è ancora Vera Ghena qui vicino a me. Voglio evitare degli epic fail. Esatto, per evitare questi epic fail si stai comportando diversamente dal solito, amico mio. Sei anche la voce un po' più rotonda, più impostata. Sì. Allora, Napoli è campione d'inverno. Napoli è campione d'inverno, quanto ha vinto? Ha vinto 5-1 a Frosinone. Doppietta di Higuaín, gol di Albiol, Amsic e Gabbiadini. Poi alla fine c'è stato il 5-1 di San Marco. Questa è l'unica partita già finita tra quelle del pomeriggio. L'unica squadra non flop delle pretendenti al titolo, perché il resto sì, aspettando la Juve questa sera, che gioca a Marassi contro la Samp e pensa potrebbe chiudere il girone d'andata addirittura al secondo posto. Dopo la decima partita era dodicesima, insomma ha fatto una rimonta davvero clamorosa. Dovesse arrivare la nona vittoria consecutiva, sarebbe seconda alla fine del girone d'andata. Ti do gli altri risultati per come stanno venendo fuori. Il Genoa, siamo in tempo di recupero, sta vincendo 2-0 a Bergamo contro l'Atalanta, gol di Zemaili e Pavoletti, tutto dopo la mezz'ora del secondo tempo. L'Atalanta sta calando moltissimo degli amici Reia e Bollini. Il sabato ospita l'Inter, che dovrà rifarsi dopo la sconfitta di oggi. Il Chievo sta vincendo 1-0 al Dallara contro il Bologna. Decide Pepe, gol al 34esimo del secondo tempo. Nel primo tempo il Bologna ha sbagliato un calcio di rigore con Mattia Destro. Eccolo lì. Poi c'è un altro successo esterno che sta maturando ed è quello dell'Empoli a Torino contro il Torino, gol fin qui decisivo di Maccarone all'11esimo del secondo tempo. E poi, siccome questa è la domenica delle vittorie esterne, fin qui tutte vittorie esterne, anche il Palermo è 1-0 sul Verona, gol di Vasquez nel primo tempo, poco prima della mezz'ora. Verona che continua a essere fanalino di coda, 8 punti, possiamo dire insomma virtualmente retrocesso, 8 punti nel girone d'andata, sono credo pochi, sia quasi un record negativo. In tutti i campi, tranne Frosinone, siamo in tempo di recupero. Beh, Napoli grande, grande continuità, proprio. Mentre è l'Empoli, una squadra sta continuando a giocare come Sarri ha insegnato. Oggi è anche la festa di Sarri, ho letto da qualche parte. Sì, 57esimo compleanno. E pensa che l'Empoli, che ha 30 punti e ha scavalcato, se finisce così, la partita al Milan a quota 29, sta andando con Giampaolo molto meglio di quello che faceva un anno fa l'Empoli di Sarri. Ma credo anche che ci sia una rincorsa già costruita di partenza. Io credo anche nelle squadre formate per poi essere prese dalla persona giusta, attenzione, perché se poi uno cambia metodo e modo di intrattenere i propri giocatori negli spogliatoi durante gli allenamenti rischia di perderli. Invece credo che l'insegnamento dell'allenatore precedente sia stato intelligentemente preso sotto braccio e aumentato da quello che è venuto dopo, un po' come Allegri e Conte, insomma nel momento di passaggio giusto di testimone. Conte li stava assillando tantissimo, non avrebbero credo più vinto, invece è arrivata una persona che ha ammorbidito quello stesso modo di portare avanti la squadra e sta continuando a portare dei risultati. Quello che succederà con la mia Lazio tra pochissimo, visto che riusciamo a vincere con Real Madrid e perdere con una squadra magari di Lega Pro. Sì, Lazio che è in corsa per l'Europa, eh? Sì, è in corsa. È in corsa per l'Europa, 27 sì. punti per dire, piano, piano. Il Milan è due piani sopra, sì. Sopra ci sono anche Sassuolo e Empoli che insomma, sulla carta dovrebbero essere due avversarie alla portata della Lazio, così come alla portata del Milan, ma è un girone di ritorno che si annuncia assolutamente entusiasmante e divertente. Finalmente non c'è un unico proprietario di questo campionato. Carissimo amico mio, abbracciami gli altri, grazie per questo tuo bel collegamento. Un giorno analizzerò le vostre voci, vi avrò in diretta molto prima di sì, questo orario. Siamo qui. Ti abbraccio, ciao, buon anno, Pino, alla prossima. Ci siamo detti, ciao. Bene, signore e signori, ancora Vera al mio fianco, per cui sto controllando tutti i miei vocaboli, cercherò di utilizzare i più semplici per chiudere, ma soltanto uno. Vi ringrazio, vi voglio bene, vi ringrazio di voler così bene a questa trasmissione. Noi continueremo con voi ad analizzare l'elemento più importante di comunicazione, che è la voce in tutte le sue declinazioni. Torniamo domenica prossima, ringrazio tutti, ringrazio dall'altra parte del vetro il bravo Valerio, che come sempre è attento a mandare le voci nel momento giusto, Alessia e Damiano, grazie per il loro apporto e supporto molto importante, autorevole, grazie a Gaia, grazie a Radio 24, grazie a Voice Anatomy, grazie a voi, a domenica prossima.